che mi danno una grossa mano, perché immaginate che il SERT di Salerno comprende sia il distretto di Salerno, la città di Salerno, sia Ponte Cagnano e Giffoni come area territoriale, quindi è una situazione abbastanza vasta e intensa. Io mi trovo ad occuparmi di dipendenze da 30 anni. Cioè faccio questo lavoro nei servizi per le tossicodipendenze una volta e oggi per le dipendenze patologiche da 30 anni, precisamente dal 91. E quindi in tutti questi anni ho visto insieme ai miei colleghi non più giovanissimi l'evoluzione del fenomeno sotto tutti i punti di vista sociale, ideologico, culturale, legale. E rispetto alle sostanze proprio e alle dipendenze. Una volta questi servizi si chiamavano SERT, Servizi Tossicodipendenze. Oggi impropriamente io stessa continuo a dire SERT, ma si chiamano SERD, così. Servizi dipendenze, perché c'è stata una grossa evoluzione sociale e culturale, per cui non possiamo parlare più di tossicodipendenza nel senso di dipendenza da sostanza chimica, ma parliamo di dipendenza in senso generale. Ora, voi vorrei fare un giro veloce in cui vi presentate, ok? E mi dite qual è il vostro obiettivo a stare qui, ed ognuno di voi mi dice che cos'è per lui la dipendenza. Partiamo da questo, poi vi dico io che cos'è la dipendenza. Sono Nihal Ferrara, vengo da Sri Lanka, vivo qui da quasi 30 anni. Parecchio. Lavoro come mediatore culturale, varie cooperative. Che cos'è la dipendenza per lei? Non ho proprio idea. Che si immagina parla, pensando dipendenza? Che le viene in mente? Ognuno di noi, no? Sente una parola, per esempio, gli viene in mente una cosa. Così veloce, senza. Lei vede senza occhiali? Vede Sì. bene? Quindi non ha la No, dipendenza dagli occhiali. Vabbè, allora un'altra cosa, per dirle che possiamo anche essere su cose che ci sembrano banali. Il concetto è cercare di farci un'idea. Vabbè. sono Kika, sono mediatrice in uno SPRA. Allora, per me dipendenza è cioè, dipendere da qualcosa, cioè che senso una determinata cosa non sto bene. Cioè, se mi viene a mancare una determinata cosa non sono, diciamo, soddisfatta, non sto bene con me stessa. E che cos'è una cosa, una dipendenza? Dipendere da qualsiasi cosa, posso, cioè dipendo appunto anche io Allora, dalla mia. aggiustiamola un po', aver bisogno di Sì, qualcosa aver in bisogno. maniera proprio. Se io non sto bene, grazie, aver bisogno di una cosa indifferibile, eh? Ok? Quindi mettiamo il concetto più che di aver bisogno di indifferibilità, cioè nel senso che non posso differire il mio bisogno, ok? Ciao, mi chiamo Balanchu, sono indiana, vivo qui da 19 anni e per me la dipendenza è, come avete detto voi, veramente gli occhiali, perché non ci vedo bene. Occhiali, perché senza cambia la tua visione. Sì, giusto. Quindi, occhiali, il concetto dell'occhiale che senza cambia la visione del mondo, eh? Senza cambia la visione. Mi capisco solo io, però poi facciamo una sintesi. Mi chiamo Dora, sono tunisina, anche io sono mediatrice, collaboro su vari progetti. Per me la dipendenza è un cioè una persona che ha un malessere che va a cercare una via di come dice, pensa che con la sostanza allevi il suo malessere, ma vabbè, faccio la sintesi, una via di fuga per ridurre un dolore, un disagio. Quindi diciamo un medicamento, ci siamo, ho capito bene quello che vuoi dire, un medicamento in qualche maniera rispetto a un disagio. Psicologicamente forse? Sì, medicamento in senso generale voglio dire, no? Giusto per intenderci. Compensare qualcosa, diciamo. Ecco, medicamento per compensare. Per compensare. Mi chiamo Sara Mukir, sono di origine marocchina, faccio la mediatrice, quindi la questione della dipendenza, cioè non senso né come concetto ci possiamo limitare semplicemente alle conoscenze. Buongiorno. Buongiorno. È quello che sentiamo. No, io voglio sapere quello che pensi. Esatto, per me la dipendenza è anche soprattutto un fattore psicologico. Cioè, è come le sigarette, dipendo dalla sigaretta perché che se cos'è? Il mio corpo ne necessita. Mm. In generale. In generale, dico dipendenza, che ti fa pensare? Un'associazione, non... Da associare proprio ad un qualcosa. Ah, così. A una mancanza, a un bisogno. Ad aria, per me. Aria. Mi chiamo Bahiel Burb, sono marocchina, sono di identici culturali, ma le ricerche dell'accoglienza. La dipendenza per me è un attaccamento mentale. A un... Va bene così, attaccamento. Sì, mentale. È in qualsiasi cosa, che può essere un malessere o anche una cosa per bene. Che cos'è l'attaccamento? Ti faccio un po' la domanda. L'attaccamento sarebbe un continuo pensiero su una cosa, un legame a una cosa, fissazione su una cosa, in cui, però per me è sempre mentalmente, perché in qualsiasi cosa riusciamo noi a controllarla, a staccarla. Sì. Ok. Mi chiamo Elisma, sono italo-liberiana. E facevo la mediatrice e collaboro con vari sfrai e associazioni. Per me la dipendenza può essere anche una cosa salutare, tipo me stessa come esempio, senza la medicina non posso andare avanti. Che medicina? Della pressione alta, senza zestoretti al giorno non posso. Senza? Zestoretti. Questo qua, che lo porto senza attrezzo. Ok, un concetto importante abbiamo introdotto, su cui ragioniamo. La dipendenza fisiologica, poi ne parliamo. Dobbiamo fare un passaggio sulla dipendenza? Voi due. Io mi chiamo Maria Assunta, stiamo facendo il primo servizio per le dipendenze. Com'è questo servizio? È interessante perché vedi veramente le dipendenze più varie. Anche per me dipendenza è quando non puoi fare a meno di qualcosa. Diciamo che è come se fosse anche una sorta di soluzione a cui ricorri, perché pensi che senza quella cosa non riesci ad avere, quindi un aiuto, una soluzione da quella sostanza, magari, che non è per forza solo una sostanza. Brava, perfetto. Ok, mi chiamo Nina Iguera, sono della Georgia, sono tutta poco che come interprete. È una dipendenza soprattutto, ci sono persone che sono dipendenti dall'alcol, dal... E che significa essere dipendente? Vedono, hanno bisogno, quindi pensano soltanto di prendere questa, diciamo, la medicina, tra virgolette, per loro la medicina è un bisogno. Sono Elena Ivanova, russa, vivo a Napoli da 13 anni. Mi sto avvicinando da poco a questo campo di mediatore culturale. Sì. Per me la dipendenza, quando una persona non è completa senza qualcosa, può essere anche un'altra persona, può essere una sostanza chimica. Una persona non è completa da sola, deve essere, per completarsi, diciamo, ha bisogno di qualcosa. Può essere anche un'altra persona. Certo, per completarsi. Dalle emozioni di altra persona, dal... bisogno, sì, per completarsi. Bisogno di qualcosa. Mi chiamo Carmel, sono angelino, faccio un mediatore culturale. Per me la dipendenza è una cosa che, diciamo, per scaricare la tensione, io parlo di mia esperienza, se non vado a fare una corsetta dopo il lavoro e cambio l'umore, e quindi per me parlo di un'esperienza personale. Tipo ridurre ansia. Sì. O il benessere, come. Ok. Buongiorno, mi chiamo Dubai, vengo dal Kashmir. Per Pakistan sono da poco, per in Italia ancora sono il progetto di accoglienza. E dipendenza, come la parola, che è una persona che usa qualche sostanza, o anche può essere qualche abitudine che diventa un bisogno essenziale per la sua vita, che senza quello non si sente bene o non si può comportare bene, o non lo so, che senza quello non sente completo, diciamo. Ok, non bisogno essenziale, niente senza quello. Bisogno essenziale, prego. Mi chiamo Alfred, vivo in Italia da quasi 2 anni. Per me dipendenze significa essere vincolato da vincolo, quindi vincolo a una cosa o una persona, o derivare da una cosa o una persona. Ok. Mi chiamo Frank Precious, vengo da Nigeria, sono una studentessa e sto in Italia da quasi 3 anni. Dipendente per me significa una cosa che non possiamo fare senza, per esempio l'affezione della famiglia, mentalmente e fisicamente. Emotiva, ho capito bene, non possiamo fare senza sia fisicamente che psicologica, emotivamente, ok? Diciamo da un dipendente, secondo me, come il nome, è dipendere di qualcosa. Sia da dove viene? In Africa. È l'assistente della giornata. Sì. Ah, è proprio così lui. Okay. Sono senegalese. Allora, dipende da qualcosa. Sia, io li divido in 2 parti, attivo o passivo, perché dipende da qualcosa che ti cambia la vita fisicamente e mentalmente, come la droga, e dipende da qualcosa che non ti cambia la vita, diciamo, fisicamente, mentalmente, fisicamente, come gli occhiali, ad esempio. Te la cambia meglio? No, io non mi cambia, se lo posso togliere. Ma tu vedi bene? Sì, vedo bene, abbastanza. Mi chiamo Ramin, vengo dal Gambia, sono in Italia da 4 anni, lavoro come interprete nella commissione di Salerno di Caserta. Per me la dipendenza è qualcosa che non possiamo fare a meno. Quindi un vincolo anche tu in qualche maniera, come diceva l'altra. Mi chiamo Douglas Chavo, vengo da Camerun e sto in Italia da 3 anni. Per me la dipendenza è una cosa in cui noi non abbiamo controllo. mancanza di controllo. Ok. Voi siete un gruppo già costituito, cioè che fate molte cose insieme come gruppo? Sì, noi non viene mai. Perciò non sa come funziona. Quindi siete un gruppo in qualche maniera costituito. Sì. Ok. Allora, avete detto tutti quanti delle cose interessanti che hanno a che fare con il concetto di dipendenza. Dipendenza può essere di due tipi, la dipendenza fisiologica e patologica. Sapete che significa fisiologica? Fisiologica è un termine medico usato, è proprio un termine medico. Facciamo un esempio: quando una donna partorisce, sulla cartella clinica si scrive parto fisiologico, vuol dire che è stato un parto normale. Può essere anche cesareo, no, cesareo non è mai fisiologico, però fisiologico intende un'evoluzione normale di un evento. Il termine fisiologico, quindi se uno vi dice il calo del bambino, è nato un bambino, ha avuto un calo fisiologico, significa che è normale, non significa fisico, significa normale fisiologico. Quindi potremmo dire che la dipendenza ha due caratteristiche, può essere fisiologica o patologica. Lei ci ha parlato di una forma di dipendenza fisiologica, cioè normale, io dipendo da un farmaco per condurre una vita normale, no? Per non avere problemi rispetto alla mia evoluzione. Questo discorso del farmaco, devo dire, ha una serie di sfaccettature che in questo momento non ci interessa indagare, però vi viene in mente una forma di dipendenza fisiologica, quale può essere? Il diabete. Allora, teniamo un attimo da parte le patologie e i farmaci, perché ci... anche lì siamo nella normalità in qualche maniera, però... ci sarebbe un altro discorso da fare che facciamo dopo. Parliamo di una dipendenza fisiologica nel senso di naturale, normale. Un rapporto... fare il rap come lui. No, se non canta non può stare. Il rapporto madre-figlio. La dipendenza fisiologica è quella del neonato dalla madre. Il neonato non può sopravvivere se non c'è una figura di riferimento che si prende cura di lui. È una dipendenza fisiologica normale, evolutiva. Se io mi rompo una gamba, facciamo corna come si fa da queste parti, avete imparato, no? Come si fa? Ho bisogno di dipendere da una persona che si prende cura di me per quella fase evolutiva. Poi, sia nella dipendenza in cui una persona è malata per un periodo, no, e ha bisogno di aiuto, o per il bambino, c'è una fase evolutiva che si supera quell'evento e si ci sgancia sviluppando quella che è l'autonomia. Quindi introduciamo un altro concetto, il concetto di autonomia, ok? Una persona che ha un handicap, che ha una patologia, sviluppa un'autonomia compatibile con i limiti legati alla sua patologia, ok? Quindi abbiamo fatto questa distinzione tra dipendenza fisiologica e dipendenza patologica. Poi vediamo piano piano tutti questi aggettivi. L'esempio di l'handicap è patologia? No, è fisiologica, perché un bisogno rispetto a uno sgancio. È patologica nel senso che non è una malattia nel senso di una la dipendenza patologica nel senso di malattia, ma è un limite. Però la dipendenza fisiologica, perché quella persona ha normalmente bisogno per una sua evoluzione, che purtroppo... Qual è la tra virgolette patologia? Cioè la persona con l'handicap deve raggiungere il massimo di quello che gli è consentito, no? non vi posso, non so, c'è un film, se vi capiterà mai di vederlo, non so se l'avete mai visto, uno con Massimo Troisi, un attore insomma napoletano deceduto eccetera, che diceva a un ragazzo un po' soggetto in questo film: Roberti, esci, tua madre t'ha fregato, no? Nel senso che c'aveva un limite, ma era stato rispetto all'handicap completamente ristretto. In qualche maniera, anche nel caso dell'handicap, raggiungere il massimo che tu puoi raggiungere. Molto spesso purtroppo invece le persone con handicap, invece di potenziarsi, le rallentano, perché c'è l'idea, vabbè, questo è un altro discorso. Ok, sono stata chiara penso finora, no? Quindi abbiamo introdotto questi concetti. Perché vi ho voluto fare questa differenza e questa definizione? Perché la dipendenza è un concetto complesso, ancora più complesso oggi, per una serie di motivi. Però ho voglia di dirvi e vorrei che voi sapeste in maniera chiara, in maniera chiara e rigorosa qual è il concetto clinico di tossicodipendenza, che è il concetto di tossicodipendenza, intendiamo dipendenza legata dall'uso, dalle sostanze, ok? Non la comportamentale, poi ci arriviamo alla comportamentale, cioè la comportamentale internet, il telefonino, il gioco d'azzardo patologico, cioè quelle cose che non hanno bisogno dell'introduzione di una sostanza nel nostro organismo. Sono chiara? Fermatemi sempre, eh? Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sapete che cos'è? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sarebbe l'OMS praticamente, che cosa fa? Riunisce una serie di studiosi, scienziati, medici, bla bla bla, e definisce secondo dei criteri statistici che cos'è una patologia e come viene definita una patologia. La dipendenza, non solo la tossicodipendenza, però è una malattia cronica, poi ci spieghiamo piano piano tutte le parole, vi do la definizione prima, ad andamento recidivante, caratterizzata nella sua storia clinica da fasi alterne di remissione e recrudescenza. Questa è la definizione di tossicodipendenza. Purtroppo non è una definizione molto felice, nel senso che, però vi devo dire, purtroppo realistica. Allora, malattia cronica, sapete che significa cronica? Sì. Dura nel tempo, ok? Cioè non è che dice il raffreddore dura una settimana, l'OMS ci dirà dura 7 giorni, poi ti passa, ti può ritornare, ma ti passa. No, dura nel tempo, come il diabete, come l'ipertensione, come la cardiopatia. Perché vi dico questo? Perché, poi ve lo dico dopo, perché ve lo dico, che recidivante, cioè che può riacutizzarsi, cioè delle recidive. La recidiva di una malattia è la ripresentazione della malattia, caratterizzata nella sua storia naturale da fasi alterne di remissione, per cui la persona sta bene, e della recrudescenza, dove si riattiva la fase compulsiva della dipendenza. Poi vediamo anche che cos'è compulsiva. Che significa questo? Che praticamente è una malattia come tante altre, per certi versi, nel senso che una persona col diabete, no? Facciamo l'esempio, perché il lavoro che noi operatori, soprattutto noi che lavoriamo da 30 anni nei servizi, e voi immaginate, non so, non potete immaginare che cos'era la dipendenza 30 anni fa, non era né meglio né peggio, però era molto intrisa, almeno in Italia, di ideologia, Cioè, nel senso che quando io ero ragazza si pensava magari, forse anch'io, che forse farsi uno spinello, che si poteva essere alternativi ad essere tossicodipendenti, eccetera. Ma negli ultimi 30 anni le neuroscienze e gli studi sul cervello che ci sono, che poi vi farò vedere, ci hanno dimostrato quello che è essere un paziente tossicodipendente. Per cui io non posso esprimere il mio parere personale, posso esprimere solo un parere tecnico. Quindi se c'è il politico di turno, il cantante di turno, lo lo scrittore di turno che dice la sua, dice delle stronzate, perché c'è uno studio e delle ricerche specifiche fatte da persone che non hanno niente a che vedere con questi, che ci dicono gli effetti delle droghe sul cervello, che vi garantisco sono devastanti, va bene? Quindi il non riconoscere la dipendenza e quello che la dipendenza comporta come una malattia a tutti gli effetti e non dargli la stessa dignità del diabete o dell'ipertensione o dell'epilessia significa condannare queste persone che sviluppano una dipendenza per una serie di motivi, poi cerchiamo di capirli anche, significa condannare queste persone ad una patologia grave, più grave, senza compenso, perché abbiamo gli strumenti oggi farmacologici e non per poter mantenere il paziente con una dipendenza patologica quanto più possibile compensato e quindi consentirgli una vita in qualche maniera dignitosa. Non so se è chiaro, questo discorso per me è molto importante e ci tengo che passi questo discorso. Non guarisce, però riesce ad avere una vita... Bravissima, una vita compensata. Magari non ha delle ricadute, per esempio, no? Riduce le ricadute. Ridurre le ricadute significa ridurre i rischi di patologie correlate. Ridurre i rischi sociali per un giocatore. Allora, nella dipendenza da sostanze riduce il rischio di morte, perché ogni volta che una persona usa una sostanza stupefacente rischia la morte. Riduce dei danni per la collettività, magari non si mette alla guida, no? Magari non ha un comportamento agitato, violento, legato all'uso di sostanze. Nelle dipendenze non da sostanza, a seconda di quella riduce i rischi, perché vedremo fra un po' che nelle dipendenze non da sostanza sono coinvolte le stesse aree cerebrali della gratificazione delle dipendenze da sostanza. Cioè praticamente se io sono stata tutta la serata alla sala bingo e ho perso lo stipendio con cui dovevo portare a casa, esca alle 4 la notte dopo che mi sono fumato un pacchetto di sigarette in 3 ore, mi sono bevuta 10 caffè, 3 analcolici che mi offrono quelli delle sale bingo e 3 alcolici, scusa, ho perso tutto lo stipendio che dovevo dare a casa a mia moglie e figlie, mia moglie già stava incavolata nera. Quando mi metto alla guida alle 4 di notte, il mio comportamento alla guida è un comportamento prudente, sicuro secondo voi? Assolutamente no. Quindi vi rendete conto che il discorso della sostanza ha un effetto psicoattivo, però il rischio di quelli che sono le nostre sensazioni e la nostra risposta psichica rispetto agli eventi è la stessa cosa, no? Quindi questo discorso, ritornando a quello che vi stavo dicendo, per me è molto importante. Perché è molto importante? Perché significa dare dignità e riconoscere una patologia e consentire a chi si occupa di questo di mettere in atto tutte quelle che sono le risorse di cura e riabilitative che oggi abbiamo. Qual è il problema che noi abbiamo rispetto alla dipendenza? Un po' più grave di altre patologie. Secondo voi qual è il problema che abbiamo? Se io ho il diabete, no? E non ho la diagnosi ancora, però mi accorgo che magari svengo, che magari in certi momenti la mia vista fa così, dico mamma che mi sta succedendo, vado dal medico, chiedo, che dico quello che c'ho, mi fa una serie di indagini, dice c'è il diabete, ti pigli la pillola, sono dispiaciuta, sono contenta, ma meraviglia. Qual è la differenza rispetto alla dipendenza? La visione è alterata, la diagnosi. E qual è il problema della diagnosi? È che nel diabete si riesce facilmente a capire il problema facendo gli esami del sangue. Anche cioè, della dipendenza? No, dico, ma per il paziente cioè, è più difficile ammetterlo, no? Cioè farsi aiutare. La difficoltà è riuscire a stimolare la richiesta d'aiuto nella persona. Cioè, se io non mi sento bene, magari sono pure ansiosa, ci corro, a seconda del carattere, no, ci corro prima o dopo, ma comunque ci arrivo a chiedere aiuto. Invece la persona, mi siedo, con una dipendenza chiede aiuto più tardi. La fase tra l'esordio della patologia e la richiesta d'aiuto viene definita fase della luna di miele, una sorta di innamoramento rispetto al comportamento, una sorta di innamoramento rispetto al comportamento per cui uno o la persona non chiede aiuto, no? Non chiede aiuto perché pensa... io me la, questa cosa me la posso gestire, posso fare come mi pare, poi prima o poi risolvo, bla bla bla, e qualche volta in fondo è per stare un po' meglio, che vuoi che sia, ma in fondo tutte le cose che si dicono delle giustificazioni, delle giustificazioni. Ma c'è chi anche non lo ammette, tipo noi non lo sprava dove lavoro io, noi abbiamo una tutte tossicodipendente, è dipendente da alcol, un alcolizzato, però cioè lui, noi sappiamo che è così perché alla fine l'abbiamo un po' verificato anche con... Come cioè, l'avete verificato? No vabbè, l'abbiamo verificato perché sappiamo che tutte le sere, all'inizio era tutte le sere, poi è diventato proprio, abbiamo trovato le bottiglie nascoste sotto il letto, e quando abbiamo trattato il problema anche con lo psicologo, lui dice che non è vero, non è assolutamente vero, che lui comunque si sa gestire, si sa controllare e beve tanto per accompagnare i pasti, perché un bicchiere di vino cosa vuoi che faccia? Ma invece è proprio dipendente, perché senza appunto il bicchiere di alcol non ha, che gli succede? Ha delle reazioni negative, cioè? Cioè si agita, è violento con i bambini, è violento con la moglie, risponde in malo modo a noi operatori, e cioè noi abbiamo capito che sicuramente dipende dall'astinenza d'alcol questa cosa, però tuttora dopo un anno non ammette la sua dipendenza. Una cosa importante da dirvi per voi che fate questo lavoro in queste strutture, secondo voi di astinenza, sapete che cos'è, sì, l'astinenza, no? Non prendi più il prodotto, no? Quando ti manca la sostanza, manca. Che succede senza? Si può morire di astinenza? Sì, penso di sì. Allora, no, dipende, no, da cosa? Dalla dose, magari. Dalla sostanza. Si può morire di astinenza alcolica. Sembrerà strano. Di astinenza da sostanze, eroina, cocaina, non si muore, solo il neonato può morire. L'adulto è difficile che muoia, muore per una complicazione diversa magari, no? Come? Però non si muore, per quanto può essere forte o debole il dolore, non si muore nel senso stretto di astinenza. Di astinenza alcolica si può morire. Quindi se un paziente o una persona che fa uso di alcol in maniera tale che se sospende di botto va in astinenza, non deve mai sospendere di botto, perché l'astinenza alcolica produce convulsioni. Convulsioni ripetute possono condurre alla morte. Allo stesso modo il neonato che nasce in astinenza, anche se la madre fa uso di eroina, sviluppa convulsioni e di convulsione si può morire. Ok? Quindi a volte sembra, vabbè, basta, non bevi più, ti tolgo tutto. È pericoloso per il paziente che ha una dipendenza alcolica, eh? E questo si sa molto poco. Vedere i pazienti in astinenza alcolica con le convulsioni, devo dire che una cosa mi è capitato un paio di volte, per delle persone che avevano negato questo problema, poi si erano trovate in situazioni, mo ci vuole tipo comunità, cose del genere, e che poi è mancato là, o è successo un evento X, è molto brutto, vanno immediatamente portate in ospedale, soccorse, insomma c'è tutta una procedura, quindi se vi dovesse capitare, improvvisare un trattamento, paradossalmente se trovate un erenomane e decidete di chiuderlo dentro e non dargli più l'eroina, non gli succede niente, può avere mal di pancia, mal di stomaco, mal di schiena forte, insomma può avere tutti i dolori di questo mondo, fa capo e muro ma non muore. Un'astinenza alcolica invece è pericolosissima per la persona, quindi non vi azzardate mai a fare cose di questo genere, che molto spesso non si sa. Io ho scoperto negli anni, soprattutto oggi ancora un po' di più si sa, perché l'uso di alcol è diventato molto frequente, quindi l'informazione è aumentata, ma vi garantisco che fino a 7-8 anni fa non è che si sapeva tanto che l'astinenza alcolica era così pericolosa, così come l'astinenza da psicofarmaci, cioè chi abusa psicofarmaci e poi sospende di botto, sono astinenze pericolose. Rispetto anche la psicofarmaci, sia lo spray di Fisciano che alcol e gioca anche, abbiamo portato dalla dottoressa Elena, qui dopo ci ha mandato a Cava, lo so perché l'ho inviato io a Cava, sì. Però pure la moglie, abbiamo scoperto che anche la moglie a volte fa pure compagnia a lui, le mogli un grande alleato, io sono in attesa e sono preoccupati proprio per questo fatto qua, che a volte pure lì si nasconde, si beve, è pure in attesa. Ah, cavolo. Nel bambino, nel feto, qualsiasi abuso di sostanza, e la sostanza, allora, tutte le non si può fare una graduatoria delle sostanze, sarebbe stupido dire una è buona, una è più buona, una è meno buona, però la madre che beve in gravidanza, in maniera ovviamente, insomma, che beve in gravidanza, perché non possiamo parlare di un minimo sarebbe un bicchiere ogni tanto, soprattutto in gravidanza, può dare danni permanenti sul bambino, deficit cognitivi più o meno seri, cioè possiamo avere il bambino irrequieto, il bambino che non riesce ad essere attento e concentrato, che non è il bambino patologico in assoluto, ma comunque è un bambino deprivato, quindi far passare. E tutto questo che vi sto dicendo su questi effetti sono frutto di quello che vi ho detto, delle ricerche, delle neuroscienze su cervello, perché 30 anni fa tutto quello che oggi sappiamo, non c'erano le TAC, non c'era la risonanza magnetica, non c'erano tutti questi strumenti che ci consentivano un'evoluzione di alcuni studi sul cervello. Oggi li sappiamo, e quindi sappiamo riconoscere le relazioni tra un comportamento disfunzionale e gli effetti sul cervello, no? Pensate che da pochi anni insomma la ricerca ci dice che il cervello si ingrandisce, si espande, prima si diceva fino a 18, poi a 21, ora a 25, quindi tutta questa fase evolutiva fino a 25 anni è comunque una fase di crescita ed evolutiva, no? Rispetto a, pensate, l'adolescente che consuma sostanze. Allora, sappiamo che nel nostro territorio, ma in Europa in generale, la sostanza più usata dall'adolescente e dai giovani sono i cannabinoidi, facilmente reperibili, a bassissimo prezzo, grande spaccio, quindi non ci vuole niente entrare nella rete dello spaccio dei cannabinoidi. Lasciamo perdere l'ecstasy, perché l'ecstasy non è molto frequente sul nostro territorio. Sul nostro territorio esiste il crack, ne avete mai sentito parlare? Sì. Sapete come viene chiamato in gergo su qui? Viene chiamato il cotto, avete mai sentito parlare del cotto? Oltre il prosciutto cotto, che a quest'ora non farò più la mortadella, devo dire. Allora, la sarebbe lo scarto della cocaina. Lo chiamano il cotto perché viene cotto. Questo scarto della cocaina si mette in un pentolone, ma si fa anche qui vicino, penso molti cucinano. Si mette in un pentolone, si ci mette il bicarbonato e si gira come la polenta, come il riso che fate voi, no? Si gira bello. Avevo un amico iraniano all'università che studiava con noi, faceva questo riso, che all'epoca non c'era in Italia la cultura così forte, e quindi si gira così e si cuoce. Poi, nel momento in cui arriva ad essere cotto, vengono dei chicchi, come il riso, mo ci vuole, brillanti, che quando si rompono fanno crack, perciò si chiama crack. Ed è cocaina cotta, sono chicchi di riso. Poi, con una procedura, vabbè, come la consuma, la persona viene fumato, ok? Con una bottiglia. Sì. Beh, vi spiego com'è, qualcuno lo sa? No, nei film. Nei film, cultura cinematografica, anche se allora bottigline in genere vengono prese quelle piccole, diciamo che questa è la, allora viene aperta la bottiglia, viene messo un foglio di carta argentata sulla bottiglia e messo il chicchetto di riso, viene praticato un foro, vi capita se osservate come un po' di più o meno, più o meno. Cena viene fatto, che hanno fatto una scena su Gomorra, sì, immagino, perché è molto diffuso nelle nostre zone, anche a Salerno. Viene fatto un foro piccolo al lato della bottiglia in cui si inserisce una cannuccia, ok? Viene acceso, è inalato quello che viene fumato, è una cosa che dura un secondo, è molto pericoloso perché dà una grossa compulsione. Che cosa succede con il crack? Quando voi sentite molte cose strane, incidenti, storie, il crack è molto presente, perché che cosa succede col crack? Questa procedura dura un secondo, cioè pochi secondi, voglio dire, e dà una compulsione molto forte, per cui chi usa il crack è un derivato, poi vediamo le sostanze specifiche della cocaina, quindi dà ansia, agitazione, no? Tutti gli effetti eccitanti della cocaina, ma l'effetto pericoloso della cocaina sapete qual è? La cocaina è un attivatore del sistema nervoso centrale, per cui produce uno stato di allerta, ok? In generale. Di attenzione molto forte, ecco, eccessiva, di attenzione eccessiva. Ora, se tu ti senti minacciato da me, no? Mettiamo che io in questo momento arrivo qua con un bastone e te lo voglio dare in testa, tu che fai? Che? Ti difendi. Uno che può fare se si sente minacciato? Se io sto con un bastone e ti sto venendo contro, mi osservi, non mi osservare, scappa. Cioè, se io arrivo con un bastone, uno che fa? Oppure? Prendi un altro bastone. Prendi un altro bastone. La cocaina dà paranoia. Paranoia è sentirsi minacciata. Quindi se una persona si sente minacciata e ci aggredisce, ci sta. Che poi io il bastone non ce l'ho e tu vedi il bastone, è un altro discorso su cui lavorare. Ma se io mi sento minacciata, io ti meno, è chiaro. A seconda di quanto sono forte e quanto sono sicuro di me, o scappo o meno. E a seconda di quello che c'ho con me, perché se io ti vedo che tu c'hai il bastone, io c'ho il coltellino, io caccio il coltellino, ci sta. Allora, non sto giustificando la violenza, sto cercando di far capire che significa la violenza con l'uso di sostanze. e quanto è pericolosa la violenza con l'uso di sostanze. Perché se io e te siamo lucidi, io ho il bastone, tu lo vedi il bastone c'è e tu mi aggredisci e io me l'aspetto l'aggressione perché io sono venuta a casa tua col bastone. Ma se io non ce l'ho il bastone, tu mi vedi col bastone, io non sono pronto neanche a difendermi. È chiaro, no? Quindi è una violenza diversa, particolare. E il crack questo lo dà in maniera ancora maggiore rispetto alla cocaina. Perché che cosa fa il crack? Probabilmente non sappiamo perché. Va a chi usa il crack stasera, decido io di usare crack, non è che lo uso stasera e me lo faccio per 2 ore, per 3 ore, da 48 a 72 ore. Effetto, dura effetto. No, l'uso è una compulsione molto forte, poi vediamo che cosa è il concetto di compulsione, cioè le persone che usano crack hanno una modalità molto particolare, stanno 2 giorni chiusi in macchina, isolati su una montagna, scomparendo dalle famiglie e usando per 48-72 ore la sostanza. Poi, come se i recettori cerebrali si saturassero, sapete che significa saturare? Cioè si riempiono, non ne possono più, e questi ritornano a una vita più o meno normale. 1 mese, 2 mesi e si ricomincia. Devastante. Abbiamo visto recentemente, ve lo ricordate, quel ragazzo con la barbetta che viene con sì. L'ultimo uso di crack, in genere faceva queste scomparse un giorno e mezzo, un ragazzo tra l'altro molto garbato, molto socievole, molto sorridente, eccetera, sposato con un ragazzino, con un bambino, non ricordo, di pochi anni, che ha un lavoro, stabile, una famiglia accogliente, eccetera, diciamo, questo è quello che vediamo, comunque questo è scomparso per 2 giorni, non rispondeva più al telefono, la moglie è andata ai carabinieri e si sono attivati cercando, avendo paura, che immaginava che fosse questo, però aveva l'ansia che potesse essere morto, stato male per la sostanza, per cui hanno attivato i carabinieri per cercare. Ed è una cosa che succede spesso, perché vengono saturati i recettori, fino a che non si saturano i recettori. Poi come se venisse lo schifo, si sospende, si sta 2 mesi e si riprende. Devastante assai l'uso del crack. Ah, questa è una cosa importante, la dipendenza. Voi non... superate il concetto di tossicodipendenza, ragioniamo sul concetto dipendenza in senso generale, perché è così. È un fenomeno trasversale, cioè trasversale, sapete che intendiamo per trasversale, cioè si manifesta tra tutti, uomo, donna, ricco, povero, bambino, cioè tutti gli strati e tutti i fenomeni. Vabbè. Ah, vabbè, questa è un'altra cosa importante, secondo me, che non bisogna né dimenticare né sottovalutare. Cioè, praticamente, non tutti quelli che usano gli spinelli poi useranno l'eroina. Però vi garantiamo che all'anamnesi tossicologica l'esordio è sempre con i cannabinoidi. Poi, perché qualcuno passa ad altro e qualcun altro no, non lo so, siamo alle vulnerabilità individuali, non ve lo so dire. Però comunque a rischiare è bene sempre non rischiare. Tutto chiaro finora? Allora, vi voglio dire un po' una cosa sui nostri servizi, perché è importante che voi sappiate che cosa sono i nostri servizi. I nostri servizi sono stati istituiti nel 90 e hanno avuto con una legge particolare, la 309-90. Voi sentite parlare oggi in Italia di privacy, rispetto della privacy, pure se andiamo in palestra firmiamo questa privacy, una cosa credo anche per certi versi un po' eccessiva. Per quanto riguarda i servizi per le dipendenze patologiche invece, che sono stati istituiti con la legge 309 nel 90, un articolo di questa legge, testo unico, legge di Stato, quindi molto importante, è che il paziente che arriva ai nostri servizi ha diritto all'anonimato, che non è la legge sulla privacy, è di più, cioè la persona che arriva ai nostri servizi ha diritto all'anonimato, nessuno può chiedere informazioni su di lui. Anche tutti gli atti, allora, come si fa, come si definisce una persona dipendente da sostanza? Si fa una sorta di accertamento e c'è una procedura, l'accertamento di tossicodipendenza. L'accertamento di tossicodipendenza si fa mediante una valutazione multidisciplinare, quindi c'è esame delle urine o prelievo ematico per l'uso di sostanze da strada, eroina, cocaina, spinelli, ecstasy, droghe sintetiche, eccetera, eccetera, su urine, per quanto riguarda l'alcol, su sangue, ok? Quindi la ricerca dei metaboliti su urine per le sostanze classiche, eroina, cocaina, eccetera, eccetera, l'alcolemia su sangue per l'alcol. Che succede? Che noi facciamo questi esami e poi li mandiamo in laboratorio. Anche l'esame che esce dal nostro servizio e va al laboratorio esce con una sigla, per quello che è la legge 309-90, che dà diritto all'anonimato per il paziente con una dipendenza. Perché questo? Perché la dipendenza era considerata una patologia, era, forse è, non lo so, discriminante, per cui tutti coloro che avevano una dipendenza potevano essere esclusi, bla bla bla, eccetera. Perché adesso, tipo la cocaina, io ho abitato tanti anni a Milano, fino a 3 anni fa, la cocaina era considerata la droga dei ricchi, dei medici, degli avvocati, magistrati. È normalizzato l'uso. Era, cioè, appunto, considerata la droga delle persone che stavano bene. E poi ci arriviamo anche a quest'ora che parliamo delle sostanze, quindi praticamente era considerata, e quindi bisognava dare a tutti il diritto alla cura, e la gente, le persone, i pazienti non dovevano aver paura di venire ai servizi, dice vabbè, se vado lì poi lo sa il datore di lavoro, lo sa mia moglie, lo sa, che ne so, il mio vicino di casa, lo sa la polizia. Noi non possiamo dare informazioni a nessuno rispetto ai nostri pazienti, né alle madri, né ai padri, né alle mogli, né... Solo il magistrato ci può chiedere un'informativa e lì siamo obbligati a darla. Ma se viene, le discussioni maggiori che abbiamo è con le madri, che le madri italiane del sud, no? Che vengono e dicono: ma come, io sono la madre, ma come voglio sapere se mio figlio sa. Non fa niente, se la madre non lo puoi sapere, vieni con lui. Possiamo pensare, certo, quando vengono dei ragazzi giovani è importante la presenza della famiglia, no? Perché può essere un aiuto nel processo terapeutico, quindi noi li stimoliamo a questo, ma non possiamo obbligarli. Ma neanche i minori, scusa, neanche i minori. Il minore è un po' ambiguo, nel senso che il minore, magari la terapia non gli si può dare, ma la presa in carico si può fare. Però si sta cercando di cambiare questa legge, un po' come per l'aborto, no? Che il minore, si può mettere in terapia il minore se c'è un motivo, che questo ragazzo ha bisogno della terapia, eccetera, eccetera, non vuole informare o non si può informare, e si interviene sul giudice col giudice tutelare, che autorizza al trattamento, come appunto nell'aborto, in tutte le, perché comunque la terapia può essere, è un processo, comunque un trattamento ecco, è sempre invasivo rispetto. Quindi l'anonimato è molto importante, questo fatto dell'anonimato, perché tutela le persone, le persone sentono tutelate. Quindi se vi capita di avere a che fare con una persona che ha una dipendenza patologica e non vuole venire ai servizi, voi sapete e gli potete tranquillamente dire: ma non ti preoccupare, nessuno lo viene a sapere, non succede niente, non cambia quello che è il tuo, la tua condizione, la tua situazione, eccetera. Però un'altra cosa che dovete sapere è la seguente: secondo voi fare uso di droga in Italia è legale o non è legale? Nei limiti della legge. Come? Però cannabis si usa per il pane, per la birra, si fa. Aspettate, parlate una alla volta, se no non capisco. È legale o no? No. No. Sì. No, in Italia adesso cannabis è legale. Si fa la birra, si fa il bagno. Nella terapia, che è la nostra cosa. Nella terapia. Non è legale. Ma è uso personale, sì. Ah? Ho detto, scusa, la cocaina è legale, non è legale. No, no, per uso personale. Parliamo di cannabis. No. Però la cannabis è legale. Sì, è legge proprio. Allora, fare uso di sostanze stupefacenti in Italia è illegale. Esistono questi negozi di cannabis in cui la quantità di THC deve essere inferiore allo 0,5%, dove quell'uso è, tra virgolette, consentito in maniera diffusa. Per motivi terapeutici è un altro discorso, perché anche il metadone, il farmaco, non so se conoscete qualcuno di voi che cos'è il metadone, è un derivato degli oppiacei che i servizi per le dipendenze possono dare per l'astinenza da eroina, è un farmaco, ma viene dato solo a quei pazienti che ne hanno realmente bisogno con una diagnosi specifica, per cui se io vado in giro col metadone mi arrestano, perché non ho nessun medico e nessuna diagnosi che indica che quello è il trattamento necessario per me. Quindi a questo punto anche l'uso terapeutico la cannabis per uso terapeutico ha senso solo per quelle persone che hanno quella diagnosi come un farmaco che ha delle caratteristiche particolari. Quello che viene venduto, la cannabis che viene venduta nei negozi, eccetera, eccetera, ha un quantitativo di THC inferiore allo 0,5, per cui non dovrebbe quel dosaggio dare l'effetto psicoattivo, appunto, no? Perché le sostanze, appunto, sono definite psicoattive in base all'effetto che hanno sul cervello. E come quell'effetto, il concetto di psicoattivo importante è l'effetto che la sostanza ha sul cervello e come quell'effetto modifica il comportamento. Chiaro qual è la relazione? L'effetto della sostanza sul cervello e come quell'effetto modifica il comportamento. Questa è la connessione, ok? Per cui è... Forse qua è stato anche detto, ma quanto quella sostanza, diciamo, qualcosa che cambia la vita, cambia il comportamento quella sostanza, l'effetto psicoattivo, il cambio di comportamento, ma il cambio di comportamento diventa qualcosa poi di strutturato, perché io sto sempre agitato, sto sempre ansioso, sto sempre nervoso, ho sempre paura. Non solo la sostanza ci cambia i comportamenti, degli stili di vita e delle modalità disfunzionali ci cambiano i comportamenti. Se io vado a giocare tutte le sere e la mattina arrivo stravolta al lavoro, mi appiccico, litigo con i colleghi perché arrivo tardi, litigo con mio marito perché mi sono giocata tutti i soldi e perché non ci sto mai in casa, il mio comportamento diventa disfunzionale all'interno delle mie relazioni affettive, quindi il concetto di psicoattivo è un concetto molto importante che ha a che fare su come, modificando agendo sul mio cervello e sul sistema nervoso centrale, una sostanza prevalentemente va ad alterare il comportamento. I SERD, come vi dicevo all'inizio del nostro incontro, sono cambiati notevolmente perché non assistono più soli tossicodipendenti, ma varie dipendenze, gioco d'azzardo, eccetera, ma prevalentemente quindi le dipendenze senza sostanza. Garanzia all'anonimato, come ho detto, integrazione multidisciplinare. Essere un paziente in carico ai servizi per le dipendenze, cioè, allora vi stavo dicendo che la legge in Italia vieta, è vietato l'uso di sostanze, anche gli spinelli, le canne famose, non esiste una droga leggera e una droga pesante, è una distinzione che da un punto di vista legislativo non esiste, cioè se io ho l'eroina o ho la canna, da un punto di vista di sanzione in Italia è la stessa cosa. La quantità di cui si parla tanto, cioè, la differenza tra quantità non è rispetto alla denuncia, ok? E alla segnalazione, è rispetto all'accusa, diciamo così. Una certa quantità. Io sono denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Una quantità maggiore sono denunciato per spaccio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Che vi renderete conto che è un'accusa un po' più grave. Però, poi posso trovare anche il carabiniere che vede che c'ho solo una canna e dice vabbè vai, non ti fa beccare più. Ma quello è uno che chiude un occhio, ma la normativa prevede la segnalazione, che può essere civile, penale, amministrativa, a seconda delle quantità, a prescindere, ok? L'uso di droghe, l'essere dipendente o tossicodipendente in Italia dà diritto a dei benefici rispetto alla pena e alla condanna. Cioè nel senso che la priorità viene data alla cura e alla riabilitazione. Se io ho commesso un reato connesso alla tossicodipendenza, ho diritto alla cura. Non vado in carcere. Diciamo così così. Però ho diritto, vediamo un attimo se vadono in carcere. C'è bianco e nero. Non vanno mai. No, aspetta, aspetta. Ho diritto alla cura. Mettiamo che mi arrestano oggi, ok? Perché c'ho spaccio e vado in carcere. Mi arrestano, mi fanno un processo e mi condannano. Io dico al giudice, no, ma aspetta, io sono tossicodipendente, non voglio andare in carcere, voglio andare in comunità. Che fa il giudice? Le dà la comunità. Mi crede subito? No, l'accertamento di dipendenza. Sì. Allora, se il che fa il giudice? A chi scrive? Al CERT. E dice: ma tu questa signora, questo signore lo conosci, non lo conosci? Riporto, ma che fa, che non fa? Se lo conosciamo, è facile. Per cui a seconda della gravità del reato, della pena, può andare in comunità, può andare ai domiciliari con la cura, da non, insomma c'è una serie di benefici. Se nessuno lo conosce, va in carcere e si procede all'accertamento, nel senso che se a me mi beccano, io non sono tossicodipendente ma sono uno spacciatore, cioè, comunque dico che sono tossicodipendente. Quindi il problema che noi servizi abbiamo e su cui facciamo molta barriera è sull'accertamento, che è molto rigoroso l'accertamento di tossicodipendenza e richiede un tempo, soprattutto quello legato ad alcune sostanze come la cocaina e i cannabinoidi, che sono meno evidenti dell'eroina, mentre il paziente erenomano... Scusate un attimo. Pronto? Ui, Ciro, buongiorno. No, sto in rada a quella cosa del progetto pending. Perché novità? Coming just down soon. Mamma mia. Ma secondo me è meglio che chiudiamo e torniamo ai nostri distretti. Stiamo così bene. Ma tu c'hai le chiavi poi di quella porta? Ah, io pure, dice sempre che ci deve dare le chiavi, ma non ce le dà, ma a me non me lo importa proprio, però il concetto. No, io neanche, perché qua diventa un vincolo ad avere queste cascute di chiavi, hai capito? Chi le chiama e dice, vai un attimo, perché deve arrivare questo, quell'altro, eccetera, sì sì. Sono state sì, ma io le ultime, quelle là che diede tempo fa, le diedi a Marcello e a Pitta, non le voglio proprio, perché capì che mi tornava a quel posto pensando la più vicina, hai capito? Disse, ah, sai che c'è, siccome non erano state fatte per loro, le lasciai a loro. Ok, ci vediamo domani. Vabbè, e se vuole, ma viene pure Baselice, non è personale tuo Baselice, mica un carro sciolto. Vabbè, ma sempre il tuo personale, eh? Ma vale pure per me, perché io partecipo pure al tutto, io sono lo psicologo del campo in assoluto, hai capito? Mo ci andiamo a fare una bella equipe a Sapri. Chi è la Napoli? Perché? Non ho capito. Ma l'invidia su che cosa? Vuole fare pure il gioco d'azzardo? E perché si vuole dividere i soldi del gioco d'azzardo? Perché? Babbo, comunque facciamo l'equipe che ce ne andiamo a Sabbia. Babbo, ci vediamo domani, ciao sì. Hola. Dove eravamo rimasti? Beneficenze. Benefici. Sì. E quindi voglio dire, il problema che noi abbiamo nei servizi è il problema dell'accertamento, che è molto rigoroso, ha delle caratteristiche particolari, significa la presa in carico. Sono anni da quando io, insomma, da qualche anno sto facendo una lotta, perché sapete come dicevano i nostri pazienti, come dicono ancora? Voglio un certificato di iscrizione. Mi girano così le scatole, perché mica siamo al club delle bocce, o è una presa in carico, è una cura. Mica uno è iscritto per sempre. Mica cioè, è vero che la patologia è cronica e che la cartella clinica, pensate che la cartella clinica per i pazienti con dipendenza è limitata, non si deve mai buttare. Tutte le altre cartelle cliniche, 10 o 30 anni, quella è limitata. Perché è una malattia cronica, secondo l'organizzazione. Ma se la persona è morta? Ah beh, quella viene archiviata. Ma viene archiviata, non eliminata. Noi le archiviamo le cartelle delle persone che non vengono più, ma ce le abbiamo catalogate e archiviate. Non mai distrutte, non può essere mai distrutta la cartella clinica di un tossicodipendente, perché è una malattia cronica. E proprio anche per quelli che sono i benefici, perché capita che vengono i carabinieri su disposizione del magistrato a chiederci: ma il 20 giugno del 2008 alle 10 quella persona ha dichiarato che era qui da voi, è vero? E noi lo possiamo verificare, perché per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci vengono dati in una maniera abbastanza particolare, eccetera, eccetera. Comunque viene registrato l'orario in cui la persona viene, assume il farmaco e quanto farmaco assume, per tutte le persone che arrivano. Quindi se uno prende il registro del farmaco che è conservato illimitatamente, abbiamo i registri del 91. Io posso dire: Antonella Grandinetti, se il 10 giugno del 91 era al CERT alle ore 10, no? Proprio per queste caratteristiche. Allora, vediamo quali sono le aree della dipendenza di cui noi ci occupiamo. Vabbè, le sostanze stupefacenti, eroina, cocaina, cannabinoidi, eccetera. Alcol, che è una sostanza psicoattiva, l'alcol, non è un alimento. Ma col vino? Eh? Ma col vino? No. Fa un bicchiere di vino. Quali sono? La quantità? Neanche la quantità, insomma, in linea di massima. Ci possiamo fare un discorso sulla quantità. Le credenze, come si dice, le credenze fasulle sull'alcol, no? Che l'alcol riscalda, per esempio. No, questa è una perché in Russia è così, dicono che tu senti caldo perché si allargano i veni e le arterie, e la volta fa questo, però tu muori di freddo. Bravissima. I barboni che muoiono per strada molto spesso sono alcolisti, perché produce assideramento. È una percezione diversa, ma non è vero che l'alcol riscalda, infatti muori di freddo. Fa buon sangue, non è vero, perché aumenta tutta la disfunzionalità cardiaca. C'è una, non so se anche nei vostri paesi si dice che il latte, come si dice, la birra fa birra latte. Fa latte, sì. È diffusa questa credenza, sì. Solo italiana. Solo italiana. Questa è una delle stronzate italiane, nel senso che si dice che la donna che ha latte e beve birra esce più latte. Scemenza, non è vero. Anzi, no, no, no, e ti hanno fatto fare una cosa che non funziona. Anzi, si perdo l'alcol disidrata, cioè si perdono i liquidi. Cosa dicono gli irlandesi, no? Della birra? La birra si prende in prestito, dicono in Irlanda, che significa che immediatamente vai a fare la pipì quando bevi molta birra, no? Si prende in prestito che la liberi. E che vuol dire questo? Che ci, quando noi perdiamo liquidi siamo disidratati e il latte deve essere molto liquido per idratare i bambini, quindi non è vero, l'alcol disidrata. Tutti gli alcolisti, se conoscete qualcuno, hanno la pelle secca, le labbra spaccate, perché l'alcol disidrata, non è un idratante, oltre ad essere a produrre inappetenza, ridurre i bisogni, eccetera, eccetera. Poi rivediamo tutte le credenze patogene, ce l'avrò da qualche parte, perché non me le ricordo tutte. I farmaci non prescritti, quindi la dipendenza da farmaci. Molte sono le persone con una dipendenza da farmaci che è anche difficile da gestire, da curare, eccetera, eccetera. Il tabagismo, una dipendenza da nicotina, da tabacco, e comportamenti compulsivi. Qual è la differenza tra i farmaci, il tabacco e l'alcol e le sostanze stupefacenti? La sostanza che fa effetto diverso? È un po' l'effetto. Perché per quanto agiscono sul comportamento, così come i comportamenti compulsivi additivi, danno irritabilità, possono dare ansia, possono dare, però non danno una dispercezione, ok? Dispercezione significa il bastone che vi ho detto prima, ce l'ho e non ce l'ho, no? Significa un'alterazione completa di quella che è il riferimento spazio-temporale, eccetera, eccetera, no? Per esempio alla guida la persona che è sotto effetto di alcol ha la cosiddetta visione a tunnel, cioè nel senso di sé non ha la visione laterale, a tunnel, la galleria, ci avete presente? E quindi ce l'ha solo come cavalli, frontale, non ha la visione laterale. Invece se io fumo le sigarette, mi prendo alcuni farmaci o ho un gioco d'azzardo patologico, non ha una dispercezione come nelle sostanze psicoattive, ok? Una domanda, ma anche il tabagismo è considerato quindi una dipendenza cronica nel tempo, quindi uno può riprendere? Sì, molti fumatori riprendono. Io sono stata una fumatore, una fumatrice, e ogni volta che, insomma, quando ero incinta, immediatamente appena sapevo di essere incinta, io sospendevo, insomma, la sigaretta, senza grossi effetti, devo dire, per riprenderla appena smettevo di allattare. Cioè io oggi smettevo di allattare, domani riprendevo a fumare in maniera regolare. Ma così. È capitato a tante donne. Sì. La testa che fa. Sì, era. Perché come lo devi fare? Ovviamente dipende sempre dalla motivazione. Scusate, Ciro. Ah no, non lo so. Chi te l'ha detto? A me mi ha detto che andava a Barcellona, il 25 non c'era per la manifestazione, che gli ho detto se passava da Piazza della Concordia, gli avevo chiesto, no? E lui ha detto no, io vado a Barcellona. Figurati se non viene Lucia, lo disse pure alla riunione con la Zampetti, ti ricordo. No, la Bove è andata a Dolo, non lo so chi si porta, Luciano doveva portare il camper, non viene più, ti ricordi? Mercoledì. Quando torniamo però, eh? No, no, non esiste proprio quello, quello ci va in fronte. Vabbè, ok. E quindi non ci, non ci vado proprio al dipartimento lunedì, che ci vado a fare? Ma scusa, non ci ho mandato manco una mail della riunione indetta per mercoledì. Benissimo, partiamo così. Vabbè. Sì, sì, alla grande, ma mo, guarda, battaglia dura, mo, basta. Ormai siamo, sono in guerra, quindi sono su tutti i fronti in guerra, eh? Dipende. Vabbè. Ciao, Ciro. Allora, stavamo dicendo allora, scusate ragazzi. Allora, stavo dicendo. Che stavo dicendo? Le sigarette, abbiamo finito. Ah, le sigarette, ecco. E nel senso che non vanno a incidere sul comportamento. Domani, a proposito, per chi sta a Salerno, a Piazza della Concordia, penso che è un luogo che conoscete tutti, saremo presenti come dipartimento e servizio con un nostro camper per attuare una prevenzione su strada delle dipendenze patologiche, perché per farci, come dire, conoscere relativamente, perché noi abbiamo 180 persone al giorno, 120, 100, no, 180 no, dai 130 ai 150 persone al giorno, quindi non abbiamo bisogno di clienti, però perché quello che arriva ai nostri servizi è la punta dell'iceberg. Le persone arrivano dopo la luna di miele, dopo che è successo il casino. Cerchiamo di stimolare una richiesta d'aiuto quanto più precoce possibile, che tanto più è precoce, tanto è più facile quello che è il progetto riabilitativo. E saremo presenti con l'etilometro, i test per le rapidi per l'epatite, il test salivare per le patologie connesse, con una serie di questionari rispetto ai comportamenti a rischio. Quindi se vi capita di essere in zona o ci venite a trovare, ci fa molto piacere, vogliamo far vedere un pochino come lavoriamo, come funzioniamo il nostro camper, eh? Io sarò lì tutta la giornata, quindi, e anche loro, eh? Quindi voglio dire, se vi capita di passare, mi fa molto piacere, insomma. Piazza della Concordia. Piazza della Concordia, dove sta proprio la Madonnina. E il camper servizio dipendenze, insomma, ci vedrete. C'era altro che terza età, tipo. E noi non siamo. Non è quello. È sempre della regione campana. Sì, sì, è sempre dell'ASL, voglio dire, no? Sempre, insomma, l'ASL. Va bene. Questo proprio perché cerchiamo di stimolare la presa in carico e la richiesta d'aiuto. Qual è la mission dei nostri servizi, la mission dei servizi per le dipendenze? La mission di questi servizi, quando volete fare un attimo di pausa me lo dite, perché io posso andare ad oltranza. I servizi, finisco questo concetto, va bene? Dipendenza la pausa, sì. L'obiettivo. Ma ci sono le dipendenze temporanee, vero? Sì, certo. Di certo comportamento, senza essere sì. E poi ci arriviamo a perché. Io sì, con la sigaretta. Aspetta, allora facciamo un esercizio. Quando hai voglia di fumare me lo dici e spostiamo. Facciamo un esercizio comportamentale. Facciamo vedere a tutti come funziona. Ci stai? Io sto digiuno, quindi non posso. Allora non serve. Allora, già ce l'hai la sigaretta. Ah. Allora, scusate, l'obiettivo di questi servizi sono due: la mission di un servizio del genere è la ritenzione in trattamento. Che cosa significa? Mantenere le persone nei servizi, un contatto col servizio, per prevenire le ricadute, perché essendo una malattia cronica con fasi alterne di remissione e di recrudescenza, la ricaduta è in agguato. Riuscire a riconoscere i segnali della ricaduta, che questo è importante anche nelle vostre strutture, i segnali a rischio, i segnali disfunzionali, e prevenirli diventa ridurre quanto più i fattori e le recidive. Pausa? Sì, ok. Passiamo 11 e mezzo, pausa. Ah? Ah, finale 11 e mezzo. No, aspetta. 11 e 15 qui, precisi ragazzi, 'Esperimento. Io sono la docente e non lo faccio. Vabbè, io sono assistente, quindi. No, sono gli assistenti, ma lo fanno lo stesso. Ah, tu sei l'assistente d'aula, ma lo fa... Allora vieni qua, mi dai una mano. Chi ha un'esigenza reale perché deve avere il telefonino acceso? Io. Qual è? La bimba. Ok, la bimba va avanti. Io pure. Chi ha un'esigenza? No, allora, non spegnete i cellulari, li mettete tutti qui sopra. No, senza scherzo, la mia è urgentissima. No, ma che urge? Lo tieni acceso qui. Le faccio tenere acceso. Mettiamo, le appoggiamo anche il computer. La mia è la dipendenza dal telefono, questo lo ammetto. Ecco, dopo ce li vendiamo insieme, dividiamo però, scusa, se vuoi tenere qua. Che sta succedendo? No, che sta scrivendo? Ah, mia sarà. Sono un messaggio, non ho capito. Vuoi rispondere dopo, è urgente? Perché? Che cosa c'ha di urgente? Vediamo le caratteristiche del mio. No, è che mio marito vorrebbe andare in farmacia, visto che non sa parlare bene italiano, mi stava chiedendo la disponibilità. Ah, vabbè. Farmacia. Sono palle, sono io, non ci credo. Non è vero, appena arrivato. Sai che cos'è? Che oggi col telefonino ci sembra tutto urgente. Non è che ci confondiamo dopo, perché io ce l'ho rotto, posso prendere quella che non è. Allora, Posso stare anche con una giornata senza. Io ho difficoltà a stare senza, lo dico senza problemi. Perché siamo abituati in un modo che è tutto urgente. Noi quando andiamo. Che è successo? Dipendenza dal letto. Stiamo cercando di capire la dipendenza dal cibo. Dobbiamo consigliare tutti? Sì, sì, sì. Sì, sì. Facciamo un gioco. E vediamo quanto ci pesa. Telefono. Sentiamo le dipendenze. Io le due potrebbe stare lì. Allora, io vi dico una cosa. Già si sono agitanti. Vediamo chi si agita. C'ha una faccia preoccupatissima. C'ha una faccia. È urgentissima a mezzogiorno, te lo giuro. Ascolta. Ascolta, le urgenze sono tutte urgenze e per fortuna abbiamo il cellulare, no? Meno male, possiamo gestirci in maniera più rilassata l'urgenza. Voi pensate che... Quanti soldi? Non altero il gioco. Bravo. La lealtà è un valore. Allora, qual è il discorso? Abbiamo tutti... è una risorsa. Chiedo scusa, prima di cominciare a pieno ritmo, qualcuno vuole del caffè ancora? Il tuo telefono. Il tuo telefono. Il tuo telefono. Solo il tuo telefono. Giulio, ma la tua mezza lo devi mettere il telefono. No, io... Dipendenza fisiologica o patologica? Brava! Caffè. Uno, due. No, questo poi io magari. Perfetto. Allora, dimmi. C'è uno che non ha più telefono, sa qua. In tasca. Però ce l'ha due. Proprio come i ragazzini a scuola che copiano il compito col secondo telefono, molla il telefono. Ma ti ho chiesto un telefono. Molla il telefono. Due, tutti quelli che avete. Ah, ok. Io ne ho quattro. Questo veramente è cronico. Allora, ragazzi, è un gioco. È cronico questo. È un gioco. Ma è un gioco. È un gioco. Allora, il testo. Ma fate impressione! Ma non si può! Allora, ragazzi, è un gioco. Avere telefono è una risorsa. Le risorse devono essere risorse, non devono essere vincoli. Diventano le nostre risorse dei vincoli. Avere il telefono è meno male. È meno male che possiamo comunicare, possiamo essere tranquilli quando i nostri figli escono e stanno fuori. Però non esagerare. Io mi chiedo come ha fatto mia madre a sopravvivere con me che uscivo, che insomma io studiavo a Roma 30 anni fa quando nessuno usciva di casa, come ha sopravvissuto? Credo che è stato un eroe. Io immagino mia figlia o mio figlio, l'altra figlia, insomma, perché c'è un sacco di figli, che quando io non potrei sopravvivere se loro stanno senza telefono, mi piglieranno. Come siamo sopravvissuti noi? Allora, in questo contesto cambia. In questo 2019 che siamo, ci stanno tante cose nell'internet, diciamo che tante notizie cattive e le cose varie, quindi. È normale che uno si preoccupa. Certo. Invece negli anni 90 che usavamo telefono fisso, perciò ti dico, è una cosa buona, è una cosa ottima, è un'opportunità, però la risorsa non deve diventare vincolo, cioè non ci deve limitare, poi diventa un pensiero, una preoccupazione, un'ossessione. Pensate nelle dipendenze affettive, quelle donne o quegli uomini anche gelosi che controllano mediante i social, i telefoni, no, con questi strumenti, i loro ex, i loro compagni, i loro partner. Pensate l'opportunità come da vincolo diventa risorsa, come da risorsa diventa vincolo in alcuni momenti. Avere sempre internet a disposizione ed essere in contatto col mondo, sapere che succede, è una cosa bellissima. Io credo che noi siamo fortunati, sì, a vivere in questo momento con queste opportunità, però se questo diventa un vincolo per cui ho quella potenzialità, la uso, dico l'esempio, per controllare la mia ex dove va, che cosa fa, con chi sta, e mi intossico io, intossico a lei, diventa un vincolo. Allora diventa automatico. Il collega che mi ha chiamato prima e che mi ha detto la riunione di venerdì è saltata, io ho risposto, ma potevo pure non rispondere, perché che me lo diceva alle 2 dopo che avevo chiuso con voi, ma che cavolo cambiava. E questa è il vincolo. La risorsa è che se mi chiama mia madre che sta male, io posso andare o chiamare aiuto immediatamente. Quella è, questo è la risorsa, il vincolo. È il collega che mi ha detto, e io mi sono pure fermata a chiamare, a rispondere, quando potevo dire, senti, non so, c'è un'altra cosa, andiamoci fra noi, e magari avrei risposto pure se stavo a cena, se stavo con i miei figli, eccetera. È chiaro qual è la differenza dell'opportunità. Esiste. Allora, che significa che io ho bisogno del telefono e di essere sempre collegato? Che succede se io esco e non ho il telefono? Questo... Chi è che ha detto la bambina? Tu, mi pare. Sì. Che succede se tu stai qui e il tuo telefono si scarica, non è il caricabatterie, non puoi caricare? Perché ma se succede qualcosa, l'asilo che cade, non possono chiamarmi. E che emozione provi? Ansia. Ansia, sconforto, preoccupazione. Bella, telefono. Lei 3 volte è uscito con il telefono in tavolo. Telefono. Tutti? Tutti? No, ok. Tutti, sì, sequestrati fino a domani mattina, ve lo venite a prendere a Piazza della Concordia. Voglio vedere oggi come state. Cioè, ma vi rendete conto che quasi tutti escono con 2 telefoni? Cioè, ma qua che stiamo dicendo? Allora, quindi che cosa significa, qual è la dipendenza patologica? Mo lasciamo perdere. Se lei dice mi preoccupo per la bambina, io mi preoccupo perché devo scoprire se il mio compagno mi tradisce o piuttosto che mia madre sta bene, eccetera, eccetera. Anna Abramo, a chi sta chiamando? Ma vi sgamo pure tutti i fatti vostri. È mio. Telefono. Antonella, ti ricordi questo mio? Sì. Perfetti sconosciuti. Ora vi sgamo tutti, capito? Ma pensare il film, come si è la scena? Perfetti sconosciuti. E quindi che stavo dicendo? Sto vedendo un attimo il telefono. Allora, quindi che prodotta, che cos'è la sindrome da dipendenza, appunto? La ripetizione di qualsiasi comportamento che assume una rilevanza psicologica per l'individuo. Sì, infatti è una cosa assurda che io sono rozzo e cioè io ho necessità del telefono per vedere che ore sono, è una cosa proprio malata. Allora, che cosa succede? Che io l'ansia che mia madre può stare male la sedo perché lei mi può chiamare. Ma o mi chiamo o non mi chiama, se sta se mi può chiamare, tutto sommato può chiamare anche il 118, se non è in condizione di chiamarmi non chiama anche il 118. È un bisogno nostro di avere sempre degli ancoraggi e dei paletti, ma non è, posso disturbare giusto un attimo, non è che il telefono aumenta la possibilità di cura di mia madre rispetto a me e rispetto a se stessa, ma poteva telefonare pure dal fisso, no? Non c'era bisogno che telefonasse, doveva chiamare il 118. Quindi vi renderete conto come il comportamento riduce la mia ansia. Prego. Non fate che dei telefoni, non è che devo ripagare qualche telefono. Ah, tu te le fai. Attenzione, non buttate. Ma niente, i cellulari adesso lo vivono con caffè. Sì. Anche sì, con l'alcol. C'è un altro due caffè, chi li deve prendere? Io do qualcun altro ragazzi vuole un caffè. E quindi comunque questo è il concetto un po' di dipendenza che abbiamo detto. Quindi vediamo rispetto a quello che abbiamo detto prima. Allora, abbiamo chiarito che intendiamo per dipendenza fisiologica, no? Una dipendenza normale. Cominciamo dall'inizio. Scaricare la tensione e ridurre l'ansia e questa compensazione possono avere la stessa. Inserirlo nello stesso gruppo. A volte la persona con una dipendenza patologica ha messo in atto quello che noi definiamo un automedicamento, cioè rispetto a una condizione di disagio, per una serie di motivi che non vi sto qui a spiegare, che forse non sappiamo neanche bene, questa persona che cosa fa? Ricorre a una sostanza e scopre che con quella sostanza sta meglio. Per cui l'uso della sostanza, questa compensazione, questa, diventa un automedicamento. E sono tanti i nostri pazienti che hanno questa risposta di automedicamento. Sono quelli più facili da curare. Perché? Perché riconoscendo quello che c'è dietro al bisogno, diciamo, no? Ho una condizione traumatica, ho una condizione diciamo di ansia, eccetera eccetera, queste persone con la giusta terapia, il giusto trattamento farmacologico, psicoterapico, riescono a fronteggiare quella che è la condizione, no, di limite. Vi faccio un esempio di una nostra paziente che insomma abbiamo seguito un po' di anni fa. Questa era una signora di 38 anni, fino ad allora sposata, madre mi pare di tre ragazzi anche più o meno grandicelli, quindi probabilmente si era sposata, aveva avuto questi figli giovanissima, molto giovane, e aveva avuto sempre questo rapporto molto brutto con quest'uomo, questo marito violento che la picchiava, la umiliava, eccetera. Che cosa succede? Che una sera si reca, un giorno, ora non ricordo bene i dettagli, ma il concetto è che si reca al supermercato a fare la spesa che faceva sempre e incontra una sua vecchia compagna di Rione, di dove abitava quando era piccola ragazzina, che faceva uso di sostanze stupefacenti già dall'età di ragazzina. Immaginate questa nostra signora, che chiamiamo, come la vogliamo chiamare? Anna, va? No, Anna no, mi è antipatico. Maria, no, Maria pure mi è antipatico, la chiamiamo Carolina. Ecco, la signora Carolina sta facendo la spesa al supermercato e incontra la sua amica che si chiama Carla. Immaginate Carolina, che è una donna che è stata, che ha 37-38 anni, sposata da circa 20 anni, quindi giovanissima, tre figli e questo marito che l'ha sempre umiliata, picchiata, quindi non ce la fa più, non sa più che cavolo fare, non sa chi chiedere aiuto. Ha pensato fino a un certo punto che il mondo dovesse andare così, ma decide che non vuole più, insomma, situazioni in cui c'è anche una discreta povertà, per cui non è che ci sono i soldi e le risorse per affrontare tutto. Quindi vi state immaginando un po' dove siamo, il contesto? Incontra la sua amica, le dice: ah, come va, la vede tutta quanta, dice: ma tu che fai, che non fai? La nostra paziente gli dice che la sua vita, insomma, quello che è, perché sta talmente male e si sfogherebbe con chiunque, quindi incontra questa che gli chiede come va e si sfoga con questa. Insomma, sintesi, si cominciano a vedere, quella dice ma dai vieni beviamoci una cosa, vediamoci, non vediamoci. Questa signora comincia a fare uso di sostanze stupefacenti, precisamente eroina, all'età di 37 anni, fino a sviluppare una dipendenza. L'evento occasionale è stato questo incontro. Qui lo dico e qui lo nego, non ve l'ho mai detto, forse meno male, nel senso che poi ha sviluppato una dipendenza, è arrivata anche da noi, ed è stato tra virgolette facile aiutare. Che bello. È urgente, no? Voglio sapere chi è prima. Lui non tiene niente urgente. Speriamo. Una piccola a casa di 3 mesi. Ma stiamo facendo un corso anche a casa, tantissime persone non si rispondono. No, scusate. Allora, è stato tra virgolette una risorsa, nel senso che lei ha affrontato quelle che erano le sue condizioni, devo dire si è affrancata facilmente dalla dipendenza, insomma, che aveva sviluppato, e si è anche liberata di questa che era la sua condizione. Diciamo che sono casi molto rari, non è che sono casi così. È stata una situazione relativamente facile, l'abbiamo trattata farmacologicamente con una psicoterapia, tutto sommato sta bene. Perché all'età grande uno comunque ha avuto il sostegno, vediamo perché l'età grande funziona meglio, ha avuto il sostegno della sua famiglia d'origine, prevalentemente di un fratello che non immaginava tutto quello che stava succedendo, quindi tutto sommato è andata bene. Sono casi rari, quelli così fortunati e belli, se no. E quindi possono ritornare di nuovo, cominciare a continuare di usare? Oddio, è una persona, come abbiamo detto, c'è sempre la vulnerabilità, però è chiaro che una persona che ha imparato, era un uso della sostanza traumatica da stress, no? Esiste un disturbo post-traumatico da stress in psicologia, come quello per esempio dei migranti, di queste persone che arrivano, esiste la con diagnosi di post-traumatico da stress. Ma se tipo di uno come Servini ha stress di contro i migranti, quindi il viaggio che fanno, il viaggio, la paura, l'ansia, no? Il lasciare, arrivare in un ambiente sconosciuto. È un anche il matrimonio è un evento traumatico da stress, cioè, perché è un cambiamento, il cambiamento che io non so, no? Anche le cose felici, anche se io mi dovessi trasferire in un'altra città per un motivo X, anche la vincita alla lotteria negli eventi stressanti, cioè, non è detto che sia necessariamente negativo, ma tutto quello che ci va a modificare. La nascita di un figlio è un evento stressante. Il cambiamento generale. Il cambiamento forte, dirompente. E forse anche dipende dalla persona, se non sei forte, perché ci sono, in vita ci sono sempre i problemi, quindi non riesci ad affrontare, però devi essere tu che gestisci. Certo. Per bene. Allora io dico ai miei pazienti sempre una cosa, no? Quando vengono da me, e mi dicono ma sai perché c'è uno che squilla, è urgente? No, lei è proprio dipendente, è uscito 4 volte adesso. No, è lui il dipendente, ma lo mettiamo in terapia da domani. No, io proprio l'ho messo in vibrazione, che... ma che ti alzi a fare? Allora, stavamo dicendo, mi fate perdere il filo con la dipendenza, stavamo dicendo che praticamente, io dico ai miei pazienti una cosa che non mi piace quando viene una persona e mi dice, non mi piace quando è detto così, anche io devo imparare a gestire le mie emozioni, no, quando uno dice sì ma poi perché mi sono fatta, perché che ne so, mio marito, poi ho scoperto che c'ha l'amante, cioè. Allora io dico, se volessimo farci tutti quelli che il marito c'hanno la madre, tutti i tossicodipendenti, No, vabbè, a parte la battuta così, un po' così. Però dico, abbiamo tutti dei buoni. Siamo pericoli, eh? Bravo. Abbiamo. È la verità. Anzi, voglio dire, almeno è generale, come dire, no? No, io dico, abbiamo tutti dei buoni motivi per fare uso di sostanze e per sviluppare una dipendenza. Perché in un modo o in un altro, una difficoltà evolutiva, una difficoltà economica, una difficoltà relazionale appartiene a tutti quanti. Poi se io dico che la mia è più grave della sua o della sua è una stupidata, perché ognuno rispetto alla sua vita è come dire, se il problema del bambino che non ha amici, dico per dire, oppure che non sa giocare a pallone, per noi è un problema stupido, siamo noi cretini, perché il suo mondo è tirare il calcio dal pallone, il nostro è, che ne so, non mi viene, lavorare bene, essere trasferiti, ma il problema del bambino fare soldi, ma il problema del bambino è tirare il calcio al pallone, quindi non è che è più importante del mio, no? Ognuno è rispetto a se stesso, al suo momento e al suo contesto. Quindi io su te dico, abbiamo tutti dei buoni motivi. Però non dobbiamo dimenticare che nella vita, poi torniamo su questa pagina, e questo non lo dovete mai dimenticare, nelle persone ci sono due variabili che incidono: genetica, temperamento, e cultura nel senso del contesto. C'è un temperamento, non ce lo possiamo scordare, c'è un temperamento individuale, no? Per cui uno sviluppa, pensate, che vi devo dire, un esempio di temperamento, c'è il bambino piccolo, anche piccolo, diciamo entro l'anno, che magari gli date la pappina e che non gli piace e ve la butta all'aria, no? E dice, ve li sputa in faccia, per dire. C'è l'altro bambino che magari gli date la pappina, se la mangia pure che non gli piace, quello che rifiuta il cibo, cioè quello fa parte del temperamento. Poi è chiaro che il contesto, no, aggiusta, un po', aggiusta, modifica, struttura, va a dire, va a vedere il contesto nel senso di accudimento e nel senso di contesto, cioè se quel bambino sta deprivato, mangia una volta a settimana, se la mangia tutta, il bambino che mangia tre volte al giorno te la butta là, è chiaro. Però il temperamento con i due bambini è lo stesso e vanno adattati in quello che è il contesto. Quindi non dimenticate, anche rispetto alle dipendenze, è quello che dicevi, esiste una vulnerabilità individuale che potenzia in un modo e in un altro anche gli effetti della sostanza, e questa è una cosa, secondo me, importante. Finiamo questo e poi parliamo di questo, perché è una cosa che vi riguarda più da vicino qualora doveste entrare in contatto con persone che fanno uso di sostanze. Allora, abbiamo detto le caratteristiche, quindi la sostanza come automedicamento, ma la caratteristica della della dipendenza sono due. Le caratteristiche diagnostiche sono la compulsione e il craving. La compulsione potremmo dire che è il bisogno essenziale. No, questo dopo lo ok. Prima okay. Sì, grazie. Allora, le caratteristiche della dipendenza sono, diciamo, psichiche, compulsione e craving. Chi sono questi due? Sono le caratteristiche della persona dipendente. Ha compulsione e craving. Craving significa letteralmente desiderio, richiamo. Allora, abbiamo detto bisogno essenziale, cioè vediamo un po', indifferibile la compulsione. Ok? Ora lo spiego meglio. Ok, allora abbiamo detto medicamento, diciamo l'aria la mettiamo nel gruppo della compulsione, che ora vediamo che cos'è. non puoi farne almeno, lo mettiamo nell'area della compulsione. Completarsi. Per completarsi bisogno di qualcosa, lo mettiamo nell'area della compulsione. Scaricare tensione, lo mettiamo nell'area dell'automedicamento, quello che abbiamo detto prima. Vincolo nell'area della compulsione, qualcosa che non possiamo fare senza nella compulsione. Mancanza di controllo, vincolo nella compulsione. Senza cambia la, no? Fisiologica l'abbiamo messa a sé stante, senza lo mettiamo nella compulsione, questo lo mettiamo nel craving. Allora, la compulsione che cos'è? Chi ha fame in questo momento? Io. Ha fame. Perfetto. Io non ragiono più, sono concentrata su quello. No, hai fame, però stai qui. Anzi, mi hai fatto anche una domanda, no? Stiamo parlando. Sei presente. Sei presente. Quindi c'hai un bisogno. Che stai controllando. Che stai controllando. Per cui, nonostante la fame, nonostante la voglia di mangiare, nonostante eccetera eccetera, sei qui e parli con me. E che pensi magari quando c'hai la fame? Dici, vabbè, quando vado a casa alle 2 mi preparo, che ne so, pasta e sugo, ok? Quindi non hai un bisogno, hai una sensazione, ma non hai una compulsione. Quanti di noi vorrebbero stare fuori al sole invece di stare qui dentro? Anch'io. Non è... però siamo qui e cerchiamo, vedo che siamo tutti attenti, le nostre funzioni cognitive sono tutte attivate. È un desiderio, è un bisogno, sarebbe un piacere. Lo stiamo differendo, magari ognuno di noi si immagina se domenica è bel tempo, speriamo che così mi faccia una bella passeggiata, oppure oggi pomeriggio, eccetera. Chi di voi fuma sigarette, tabacco? Siamo stati tutti quanti nella prima parte, prima della pausa, nessuno di voi si è alzato per andare a fumare, no? Quindi, nonostante essere un fumatore, non è andato a fumare. E poi dopo che affermò, avevo voglia di un'altra volta andare a fumare. Ma si è uscita? No. La compulsione qual è? È l'incapacità di differire un bisogno. Quella mia sensazione, quel bisogno della sostanza è così forte, o di quel comportamento, chiariamoci bene, è così forte che io non riesco a differirlo, a farlo dopo. Pensate che mi raccontava una madre, il cui ragazzino poi non ho visto, che non è riuscito a portarcelo, è venuta poco tempo fa, pochi pomeriggi fa, non ricordo, 10 giorni, che questo ragazzino ha una dipendenza da computer, dai giochi di ruolo. Voi conoscete i giochi di ruolo, sapete che cosa sono? Si è rotto il computer una sera, pretendeva che i genitori gli andassero a comprare un computer, a reperire un computer, e ha spaccato porte, ha rotto oggetti, così come ci immaginavamo che rispondeva così il tossicodipendente d'eroina, quello vecchio, antico, eccetera, no? A me sto ragazzino ha aggredito i genitori e creato danni agli oggetti di casa perché pretendeva che risolvessero questo problema e gli procurassero a stretto giro un altro computer. Questa è la compulsione. La compulsione è il tossicodipendente che non ha i soldi e va a fare la rapina come un cretino e dopo 10 minuti è pure preso perché ha bisogno della sostanza. È quello che aggredisce l'altro per derubarlo con la siringa perché ha bisogno dei soldi. È l'incapacità di differire il bisogno. Ok? Il craving. Si scrive? Cosa? Craving. quindi ci dà anche la mancanza di controllo, no? La compulsione, per cui il paziente con una dipendenza patologica per questa compulsione ha un discontrollo degli impulsi, per cui quello che vuole fare perché deve soddisfare un bisogno. Cioè, non dobbiamo giustificare comportamenti, ma dobbiamo essere puliti da pregiudizi, se no diventiamo giudicanti. Allora io non vi sto a dire che è bello e brutto quello che aggredisce i genitori, non è questo il termine della faccenda, perché io lo so che non è bello aggredire un genitore, non è bello derubare, ma lo sa pure il mio paziente, non è che lui pensa che sia bello, però nel momento in cui ha la dipendenza lo fa. I nostri pazienti, devo dire che prima eravamo soggetti a molte più aggressioni, ora un po' meno, per una serie di motivi, però i nostri pazienti il giorno dopo, dopo 2 o 3 giorni ti chiedono pure scusa, quel giorno ti danno, ma poi ti chiedono pure scusa. Quella è la compulsione, non è, e quindi noi dobbiamo partire col giudizio di valore. È un comportamento che va stigmatizzato, va riconosciuto come violento e come aggressivo, ma fa parte di una condizione che è quella del discontrollo degli impulsi, cioè non si riesce a controllare la propria impulsività. Cioè se voi se uno mi passa davanti, mi taglia la strada con la macchina, tutti quanti ci incavoliamo, diciamo guarda questo disgraziato, questo stronzo, quello che ci fa, però finisce là. Perché nonostante mi controllo, se io non ho il controllo degli impulsi gli vado addosso con la macchina, come dire, no, perché devo rispondere in maniera rapida a quello che è un'ipotetica aggressione. Va bene, il craving è il richiamo che va di pari passo con la compulsione. Nel craving ci possiamo mettere questa sorta di fissazione, di idea di riferimento, no? L'abbiamo chiamata. Che cos'è il craving? Il craving è quella cosa sottile, quel richiamo sottile rispetto alla sostanza, quella cosa un po' subdola, e può essere di 2 tipi. Positivo o negativo. Il craving positivo è quello che io ho un richiamo verso. Allora, quando riprendete il telefonino, tutti quanti, chi sta pensando, madonna, chi sta pensando, ma che messaggio mi è arrivato, ma secondo te quello mi ha scritto, ma quello lui. Allora, quando avrai il telefonino, ah, che bello, quello è il craving positivo, che bello, nel senso che soddisfo un bisogno e sono felice perché mi si gratifica una condizione. Il craving negativo invece è magari, facciamo l'esempio col telefono, se lo riusciamo a fare col telefono, è che io devo avere la telefonata X, per dire, il messaggio X importante, specifico, che non voglio dire a questa rompiballe che sta parlando, perché e quindi è un craving negativo che è legato a che io devo stare meglio perché quella cosa mi lega. Nelle sostanze, che è più facile capirlo forse, è l'astinenza il craving negativo, cioè io sto male perché sto in astinenza, quindi ho mal di schiena, ho la diarrea, ho mal di testa, quindi la sostanza mi fa stare bene. Il craving positivo per modo di dire, è il fatto che io vado a ricercare un effetto piacevole. Okay. Quindi voglio l'effetto stupefacente, piacevole, eccitante, eccetera, eccetera. è chiara la differenza, è importante questa differenza, molto, vi fa capire molte cose. Il paziente che noi vediamo tutti i giorni, che fa un uso quotidiano, ormai ha un craving negativo e lo dice lui stesso, io mi faccio per stare meglio. Quindi quando noi lo andiamo a trattare, dobbiamo fargli togliere i dolori, perché non siamo punitivi, Non è che devi schiattare in corpo per curarti, devi essere messo in condizione di stare bene. E quindi qui dobbiamo dargli una mano fisica, lui deve stare bene, deve sentirsi, deve ridurre quanto più possibile i sintomi disfunzionali. Questo è una persona che vive un disagio diverso, psichico, ricerca quella sensazione di gratificazione, vuole andare a coprire le aree cerebrali della gratificazione. Dobbiamo agire diversamente, è chiaro? Il craving positivo ce l'ha il detenuto quando esce dal carcere, perché questo gli è passato, questo se lo ricorda. Ce l'ha il nostro paziente quando ha la ricaduta, che magari è stato bene 2 anni, lavorava, non lavorava, eccetera eccetera, poi che cosa cavolo succede? Sente che tutto è diventato noioso, normale. Voi vi scocciate mai? Sì. Però lui sa che c'è una cosa che non lo fa scocciare. Questo è il craving positivo che ha provato già. Io non già. So, per questo non utilizzo. Sapete qual è la grossa condizione del paziente che ha avuto una dipendenza patologica? È questa. L'anedonia. L'anedonia è l'assenza di piacere, un senso di vuoto. Qualcuno di voi conosce Pino Daniele? Sì. Conosce le canzoni, chiaro. Ce n'è una che... Io, sincerità, non lo conosco, neanche il canzone. Ma dai, gli sei venuto ieri, continuiamo a sentire da adesso. Non sei venuto qua in Italia ieri, 2 giorni, come fai a conoscerti? Allora, comunque, c'è una canzone che rende bene questa cosa. Sono stonata, non ve la posso dire. No. E non ci sta piacere, nemmeno, insomma, eccetera, non ci sta piacere con mia figlia in braccio, non ci sta piacere, cioè dice delle cose belle come avere la figlia in braccio, come e non riuscire a provare piacere, è l'assenza di piacere legata al vuoto, perché c'è una mancanza molto forte ed una cosa che ci ha dato troppo piacere. E tutto il resto non è pari a questo. Questo è il lutto, proprio il lutto. Sapete che cos'è il lutto? Il lutto del paziente con una dipendenza patologica. Il paziente con una dipendenza patologica deve fare conti con il lutto. È una separazione dalla sostanza. Per sempre, come la separazione da una grande perdita. Non ci prendiamo in giro. Fare uso di droghe, probabilmente, è bene, piace. È una condizione piacevole. Siamo fortunati che non ci siamo incappati. Chi ci è incappato deve fare i conti con questo e con un lutto permanente. Se non partite voi che dovete lavorare con queste persone da questo, sarete sempre giudicanti e non ci arriverete mai alla relazione. Mi sembra molto duro quello che vi sto dicendo? È molto vero però. E quindi questo è il contesto in cui noi dobbiamo cominciare a muoverci. Quindi la persona, vi faccio un esempio di una paziente che abbiamo visto pochi giorni fa, no? Questa è una donna, una giovane donna di 34 anni che ha una lunga storia di tossicodipendenza precoce, esordio molto precoce, 15 anni più o meno. Allora, Nell'esordio precoce la diagnosi è infausta. Sapete che significa quello che sto dicendo? Infausta negativa, va male. In genere, la prognosi, scusate, in una diagnosi precoce di tossicodipendenza o di dipendenza, cioè quando l'esordio è precoce, 15, 16, 17, 18 anni, in genere abbiamo poche speranze. Cioè nel senso che quella persona si farà una lunga storia di tossicodipendenza, poi magari smetterà, perché si smette, però è una persona che avrà dei danni da questa condizione relazionale e sociale. Perché? Perché io quando costruisco il mio futuro a 15, 16, a 7, quindi è una persona che magari non riuscirà a studiare, che magari perderà i contatti con la realtà e con gli amici, ma entrerà in un circuito diverso, no? Per una serie di fattori. Quindi anche se poi smette a 35-40, è una persona che non è stata capace di costruire, chi ha un esordio tardivo, 22-23 anni, abbiamo più facilità di cura, perché abbiamo le risorse, quello che ha costruito fino allora, abbiamo le relazioni sane a cui poterci agganciare, anche se sono state perse le recuperiamo, perché si recuperano, abbiamo delle cose. Invece nell'esordio precoce abbiamo poco. Quindi questa ragazza esordio precoce, vabbè, non vi voglio fare tutta questa storia lunga, sennò poi ci perdiamo altre cose. Comunque questa ragazza sta bene da gennaio, siamo a maggio, arriva da me. Chi l'ha vista con me l'altra sera? Hai visto? Arriva, conosco da sempre questa ragazza, arriva dopo qualche periodo in comunità, ok? Questa ragazza ha due figlie che le sono state entrambe tolte, ok? E affidate, due figlie da due padri diversi ed entrambe affidate ai nonni paterni. Una di 8 anni più o meno, una di 3 anni, 4 anni, ok? Quindi le due bambine non si conoscono, due femmine affidate ai nonni paterni. Questo già vi dice qualcosa, non vi dice niente? Quindi è genetica la cosa, la mamma solo non era capace di... Diciamo, i bambini, i nonni materni non sono capaci. Diciamo che non erano disponibili, no? Non è legato a una inibizione giuridica, come dire che il giudice ha detto no, voi non siete buoni, non si sono proprio proposti. Okay. Vabbè, quindi queste due bambine. Questa ragazza ha fatto un periodo in comunità, esce a gennaio dopo un periodo lungo di comunità e esce un po' prima, ma poca roba, e comincia a venire a fare dei colloqui con me. Fa dei colloqui con me e aveva grandi aspettative di questo ingresso, di riprendere la vita col compagno. Il compagno anche lui era in comunità e lui non ha lasciato la comunità perché lui aveva una misura detentiva, quindi non se ne poteva andare volontariamente quando voleva lui. Per cui lei comincia, aspetta con ansia che possa finire questa misura detentiva, perché dice a questo punto noi andiamo a vivere insieme. Il compagno è ricco, viene da una famiglia più o meno benestante, va, anche lei non è che proprio deprivata, però comunque il padre di questo compagno voleva comprargli questa casa a lui, attivarlo lavorativamente, cioè. Quindi lei ha tutte queste aspettative che il compagno ritorna, si mettono insieme, la casa, si riprende la bambina, la figlia di questo compagno, l'altra non le interessa. No. Tenete a mente quello che stiamo dicendo. Che succede? Che il compagno esce, però i genitori di questo compagno non si fidano di loro due, hanno paura delle ricadute. Il sogno che lei aveva, anche un po' realistico, non proprio irrealistico, però che richiede un tempo, non è immediato, perché un'altra caratteristica della tossicodipendenza è tutto e subito, che ha a che fare con l'impulsività infantile, come il bambino, no? La voglio ora, la voglio ora, ho fame ora, ma mangiamo fra un'ora, no? E che cosa fa questa ragazza? Ha un craving positivo, nel senso che lei stava bene fisicamente. Comincia a sentire che non riesce a costruire niente dopo solo 5 mesi, e nonostante le venisse detto: ma guarda, ci hai messo 6-10 anni a diventare quello che sei, a perdere tutto quello che hai perso, ci vuoi mettere 10 mesi per recuperare, almeno 10 mesi, un anno per recuperare una dimensione? Non è stata capace di aspettare, per cui ha avuto un craving positivo e ha ripreso l'uso di sostanze. Che succede quando un nostro paziente riprende l'uso di sostanze? È un processo la cura, è un processo, la ricaduta fa parte della cura, non va colpevolizzato, va subito riagganciato e rimesso in trattamento. Non è la fine del mondo, di per sé non è la fine del mondo, l'importante è che quello è un errore di percorso, non è una tragedia, perché se facciamo una tragedia è come quando noi stiamo a dieta. Chi di voi è stato mai a dieta? Cioè, se andiamo a mangiare una sera una pizza, dice vabbè, capita, ci sta, domani riprendo. Se oggi mi mangio la pizza, domani mattina mi mangio il cornetto e poi dopodomani mi mangio, non lo so, dice vabbè, che me ne importa. È lo stesso principio da un punto di vista relazionale e psicologico. Cioè, se io mangio la pizza e domani mi metto al regime, dico vabbè, ma stasera non ce l'ho fatta, in fondo era una festa. Ma se diventa un alibi il comportamento disfunzionale ripetuto per mandare all'aria tutto, eh? Allora, il comportamento dipendente riduce gli stati emotivi percepiti negativamente e contemporaneamente intensifica gli stati positivi di percezione di sé e del mondo. Quello che dicevamo di quella ragazza, gli ha tolto quella sensazione negativa, l'ha fatta sentire di nuovo forte, capace, potente, perché in alcuni casi nel momento dell'uso c'è un senso di forza e di potenza. Il problema delle dipendenze comportamentali qual è? Che sono collegati agli stili di vita di oggi e quindi alla tematica della gratificazione immediata, del consumo, della risposta. La gratificazione immediata è sapere la mia amica che sta facendo, mo la chiamo, le mando un messaggino, quella è gratificazione immediata, è sapere... oggi che mi mangio, mia figlia da scuola mi manda il messaggio, ma oggi che ci mangiamo, ma che te ne frega, cioè voglio dire, quella mi sembrano grandi cose, ma sono cose banali, se vogliamo, che ne so, il marito che chiama la moglie per dire ma che fai, lo compro questo, non lo compro, ma fai come ti piace, cioè, quella è la... Ma voi pensate questo amplificato su tutto come diventa disfunzionale, no? Vi rendete conto? Vi ho fatto degli esempi stupidi, ma noi non dobbiamo immaginare la gratificazione immediata, chissà che grandi cose. La gratificazione immediata è che io non riesco a tollerare l'ansia di mio figlio che non risponde per 5 minuti a telefono, per cui si monta un macello. Cioè, questo è, non è che stiamo parlando di... A seconda dei contesti parliamo di grandi cose o di piccole cose. Allora, perché sono pericolose l'alcol o le dipendenze comportamentali? Perché sono pericolose? Io questo lo estenderei anche un po' ai cannabinoidi, perché manca la differenza tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Chi è che ha detto prima bere un bicchiere di vino non fa niente? Effettivamente non fa niente bere un bicchiere di vino. Ma nella persona dipendente questo lecito sfugge, ma non faccio niente di male, mi bevo un bicchiere di vino, ma non faccio niente di male, ho giocato la schedina. E poi è il bingo, è... in ognuno di noi rispetto a quello che è lecito o non lecito mette un suo confine. Io non ruberei mai, è un confine netto per me. Oppure non sarei mai completamente sleale, posso dire una bugia, una palla, ma la slealtà non, come affronterei una certa cosa. Ognuno di noi ha un proprio confine rispetto a quello che è lecito o quello che non è lecito. Invece nel comportamento normale il confine non c'è, nel senso che è lecito bere alcolici, punto. Quindi è più difficile mettere confini nel momento in cui si crea ovviamente una situazione disfunzionale, no? Allora, vediamo un attimo bene questa differenza, vediamo quello che mi è sfuggito. Impossibilità di resistere all'impulso, l'abbiamo detto, la compulsione, no? Sensazione crescente, il craving, negativo, positivo, quindi sollievo. Percezione di perdita di controllo. Ah, è la cosa importante che non vi ho detto in maniera esplicita, ma penso persistenza del comportamento anche quando ci dà delle cose negative. Cioè, se io vedo che il mio comportamento mi fa avere solo batoste, uno cerca di modificarlo. Là, nonostante tutti i guai che la dipendenza provoca nei nostri pazienti, continuano quel comportamento, E questa è tutta la patologia del discontrollo degli impulsi, per cui quel comportamento però mi dà piacere, gratificazione, per cui alla fine io lo metto in atto, non ci stanno santi. Ed è tutto il discorso del craving, quindi il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, per un cibo, per comportamento gratificante. E questo desiderio sostiene il comportamento dell'addiction e la compulsione. Allora, l'urgenza di attuare un comportamento stimolato dal craving, cioè da questo desiderio, quindi andare a reperire la sostanza, fare il giochino su internet, eccetera, è connesso tra la motivazione alla messa in atto del comportamento e la consapevolezza dei rischi. Cioè, io ho voglia di mettere, il conflitto è, vabbè, vado o non vado. A volte non c'è questo lavoro, è compulsione pura, no? Abbiamo la dipendenza da internet, dove noi riusciamo ad essere dissociati dalla realtà, riusciamo a perdere di vista quello che ci circonda e ci concentriamo solo su quello, e vengono assorbite tutte le nostre risorse cognitive. Allora, qual è nella dipendenza da internet, soprattutto dei ragazzi, qual è? Che il virtuale, che i giochi di ruolo soprattutto, l'avatar, no? Il virtuale non solo simula il reale, ma costruisce proprio una nuova dimensione, per cui io assumo una nuova identità e la mia nuova identità, che è virtuale, aumenta molto la confusione e la scissione tra quello che voglio essere e quello che sono. Non mi riconosco più. I ragazzi che hanno una dipendenza grave da internet, soprattutto i giochi di ruolo, hanno dei sintomi psichiatrici molto forti di percezione dei limiti corporei, spaziali e temporali. Riescono a stare tante ore senza mangiare, senza dormire, fino a sviluppare un vero e proprio delirio da stato dissociativo. Perché alcuni giochi di ruolo, non so se avete competenze, è come se si mettesse la sveglia quando devi giocare tu, ma devi essere sempre connesso per capire, bravissima, quando c'è un gruppo, perché sono inseriti in questo gruppo, per cui io gioco alle 3 di notte, per cui mi metto la sveglia, ma cerco di stare sveglio per capire che succede nel gioco, e anche se domani devo andare a scuola alle 8, io mi metto la sveglia alle 3 e posso giocare fino alle 7 di mattina, a scuola non ci vado. e non vado a cena e non faccio colazione, e questo può durare per giorni. Identità fittizia, un nome preso a prestito in questa dimensione, l'avatar appunto. La scelta di un avatar è una distorsione vera e propria della realtà, si perde di vista quella che è la tua realtà. Non so se avete sentito parlare del fenomeno dell'ikikomori, vi è mai capitato di sentirne parlare? Ecco. L'ikikomori nasce in Giappone, immaginate la civiltà giapponese, no? Se riusciamo a immaginarsela un po', dove sono dei ragazzi che vivono chiusi nella loro stanza e l'unico contatto che hanno col mondo è mediante il computer, la connessione. Non hanno contatti più, è un ritiro ovviamente molto grave, un ritiro psicotico. Esistono alcune forme, anche cominciano a vedersi più o meno gravi anche in Italia, ma legato molto alle dipendenze comportamentali, dove questi ragazzi il cibo gli viene lasciato davanti alla porta. C'era un ragazzo che veniva imboccato dalla mamma mentre giocava al computer, giocava 24/24. Quindi queste sono delle gravi disfunzioni e psicopatologie, come quella che vi ho detto di quello che ha spaccato casa perché si era rotto il computer. Allora, ovviamente le dipendenze producono un deficit dei processi cognitivi grave. I processi cognitivi sono attenzione, percezione, memoria, apprendimento, concentrazione, eccetera. E nei video terminali, nella dipendenza da internet, c'è una vera e propria dissociazione, per cui non si è capaci di vedere quello che succede nella realtà o di ricordare le cose. Quando noi stiamo per esempio facendo una cosa, vi capita mai, non mi ricordo dove ho parcheggiato, no? Io non mi ricordo mai dove ho parcheggiato, ormai l'ho imparato, quando sto a telefono, quando scendo dalla macchina e sto a telefono. Per vendere la panna. Ah? Per vendere la panna. Che significa? La panna. La panna. Che cos'è? Perché ti ricordi dove parcheggi. No, io sai che faccio? Faccio la foto in alcuni momenti, capito, di dove ho parcheggiato, vado tranquillo. Però io so, ormai per esperienza, che io dimentico, in uno stato dissociativo, quando noi mettiamo una cosa, le scarpe nel frigorifero, dico per dire, è uno stato dissociativo, quelli sono stati dissociativi dove il nostro, non siamo presenti rispetto a quello che facciamo, eh? Sì, parlavi di questa cosa dell'internet prima. Tipo io che ho i ragazzi che sempre giocano, a volte mi sento colpevole che li lascio là, a volte quando io vado a dire basta, divento la mamma cattiva. È certo. E a volte li lascio stare perché dice vabbè, mamma è cattiva. Allora per evitare questo li lascio stare anche ore in più. Allora, bisogna avere. Perché giocano questo gioco? Blue Stars adesso. Ah, c'è una grossa polemica su questo gioco. Perché dice che è un gioco. Non lo conosco, devo dirti la verità. Però dice che è un gioco. Allora, ridurre questo. Allora, abbiamo detto che c'è vulnerabilità e non. Per ridurre i rischi. I miei figli sono più o meno grandi, io non ho mai messo molti limiti, come dire, no? Né di orario né di cose, non credo che il limite sia di per sé, però va creata l'alternativa, cioè nel senso, non è che gli dici smetti di giocare, non so quanti anni hanno per esempio, no? Magari vi vedete un film, magari scendi e vi andate a comprare un gelato, cioè devi essere più, è chiaro che più passa il tempo più difficile, nel senso proprio il coinvolgimento al di là di internet, è il coinvolgimento rispetto a tenerli dentro alle cose con te, non so se mi sono spiegata, perché l'età poi è anche quella che è, quindi che ne so, il pallone, delle cose che possono il limite così e poi si devono annoiare sul divano, non serve. Ti dicono sei cattiva, giustamente, lo direi anch'io. Noi dobbiamo sempre immaginare le emotività dell'altro. Se non siamo capaci di far riconoscere le emotività dell'altro, si chiama metacognizione, capire il pensiero dell'altro, che non significa leggergli nella testa, ma capire. Se tu mi dici lascia il computer, lascia, e poi mi metti sul divano così, o mi metti a vedere, dici, ma tanto vale che faccio il gioco, almeno vado a farci il punteggio. Direi la stessa cosa. Se mi proponi di andare a mangiare un gelato, dico, per dire, un giorno mi rompo le palle, l'altro giorno incontro il mio amico, e l'altra volta così, forse poi mi viene voglia di andarci. Torna stanco magari, è per esempio il bisogno di competitività che hai nel gioco di ruolo, lo fai con la mia. Ma pure con i pazienti, con tutti, pure tra noi, no? Invece quella che mette le cose sempre a posto, i vestiti, non gli piace vedere le cose disordinate, anche se va nella casa di amici. Quella è un'altra cosa, però non è una dipendenza, quella è un disturbo, si chiama DOC, disturbo ossessivo compulsivo, che risponde a un bisogno, ma lì c'è tutto un altro discorso. Deve mettere sempre tutto in ordine, questa sta bella, la voglio un po' a casa mia. Una persona con un DOC 3 ore al giorno è perfetta, di più no, eh? Perché lui ovviamente è così, quando viene a casa mia vuole mettere tutte le cose a posto. E tu glielo fai fare? Io lo dico, guarda, qua è casa mia, non devi fare. Ma scusa, ti trovi tutto ordinato per qualche giorno? Cioè, a me piace trovare le cose dove rilasso. Ah, è vero, questo è il problema, hai ragione. Vabbè, se ha bisogno di aiuto la facciamo venire un po' a casa mia, almeno alcune cose. Allora, voglio dire, chi ha un YAD viene chiamato, cioè questo disordine, questa dipendenza da internet, la rete diventa un grande contenitore per cui perde completamente l'interesse e il contatto con la realtà, eh. Io ricordo un signore, per esempio, tra le cose strane che vi dico, quando mi sono, uno dei primi pazienti che ho visto con gioco d'azzardo patologico, quando ancora non si, gioco d'azzardo patologico, quando trovate scritto GAP è gioco d'azzardo patologico, e questo è l'acronimo. Ora vedo che molte diagnosi arrivano con questa scritta, quindi se vi capita di vedere, uno dei primi pazienti che vi dico con gioco d'azzardo patologico, molti anni fa, quando non c'era questa diffusione, due cose mi colpirono di questo paziente. Io me ne ero, insomma, era uno dei primi pazienti che avevo visto, quindi non avevo idea delle grandi associazioni con la dipendenza da sostanza, no? Per cui questo signore fece una cosa che mi colpì. Allora, questo signore aveva una moglie avvocato, quindi vi renderete conto, poverello, e lui era un ingegnere. La moglie l'aveva accompagnato da noi perché voleva questa cura in qualche maniera, aveva speso molti soldi, aveva messo un po' in difficoltà la famiglia economicamente. Io vedo questo signore che aveva, lui lavorava come libero professionista, la moglie era un avvocato dello Stato, per cui stava all'avvocatura dello Stato, per cui viaggiava perché la sua sede era a Napoli. Quindi lei usciva prima di casa e lui usciva dopo, perché aveva il suo studio, il suo lavoro, eccetera. E si occupava, lui le prendeva, insomma, andava via presto da casa, tipo le 7:30, ora non ricordo, comunque usciva prima, e lui si doveva occupare di accompagnare questi due bambini, di prepararli, accompagnarli a scuola, e poi andava al lavoro per conto suo. Mi ricordo una cosa che sconvolse lui, ma sconvolse anche me all'epoca, perché ero un po' più provveduta rispetto alle cose, Che faceva questo tipo? Chiudeva i due bambini a chiave in casa di 4 e 2 anni per andare a giocare al bar sotto casa dopo la moglie che la moglie usciva. Una cosa come il tossicodipendente d'eroina che lascia tutto. Noi non ce l'immaginiamo in questo. Uguale. E un'altra cosa che lui mi diceva, dice, ma guardi dottoressa, ma lei pensa che io veramente vado a giocare perché voglio vincere? Io mi rilasso quando sto vicino allo schermo, mi sento che mi passa tutta la tensione, io mi sento bene. A me, alla fine, vincere o perdere è irrilevante. Descriveva questa trance dissociativa da computer e da rete, benissimo, che poi l'ho ritrovata dopo negli studi successivi, ma lui me la descriveva molto meglio di come l'ho trovata lì, letta sui manuali scientifici. E tra l'altro poi che cosa è successo? Che questa moglie mi volle, insomma, provare ad aiutarla in tanti modi, molto fallimentare tutta la cosa. Quando scoprì il fatto dei ragazzini, cosa che noi non gli dicemmo, ovviamente, perché il 309 sulla privacy, cercavamo di cambiare il comportamento di noi, perché anche se c'è un pericolo per i minorenni in questo caso, perché non avete non reagito? Si dicono niente. Perché non possiamo intervenire, se no le persone che hanno i figli minori non vengono più in cura. Deve essere un rischio molto forte, molto motivato, molto sostanziale. Devo dire che ogni tanto questo è un lavoro pesante, però sì. È come finita che la moglie mi fece scrivere dall'avvocato suo che voleva la separazione per colpa e lo voleva interdire da tutti i beni familiari e voleva da me un certificato per evitare altri danni rispetto al fatto che lui era un paziente con dipendenza patologica per intervenire. Ma la 309-90 mi consentiva di rispondere all'avvocato della moglie? No, no, no, no, no, una relazione. Per cui io risposi, siccome pensavo che lui doveva essere interdetto, no? Perché io credo che vadano bloccate queste persone. Almeno noi ci dobbiamo tutelare da chi ci vuole fare del male, eh? Cioè non è che facciamo i croce rossini o le croce rossine. Per cui io risposi, anche per onestà, come rispondo sempre, che io non posso dare informazioni a nessuno. Però posso essere citata come persona informata dei fatti dall'autorità giudiziaria, ovvero dal magistrato. Per cui questa risposta significa fammi chiamare dal magistrato e ti dico tutto quello che ti devo dire. È chiaro? Nel senso che è un diritto del paziente che non vengano date informazioni su di lui, però è un diritto di ognuno di noi di tutelarci. Un altro caso così più o meno semplice di una signora, anzi no, questo è più carino perché fu un uomo che ci fece scrivere dalla Sacra Rota. Sapete che cos'è la Sacra Rota? Allora, il matrimonio può essere religioso o civile, ok? Il matrimonio religioso in Italia incorpora anche quello civile, cioè se c'è un vizio di forma nel matrimonio, per chi si sposa in chiesa, ok? Se c'è un vizio di forma nel matrimonio religioso, decade il matrimonio, eh? Ok? Chi si occupa di questo, la Sacra Rota, che sarebbe un tribunale ecclesiastico, che se c'è un vizio di forma può dichiarare il matrimonio nullo e vale a tutti gli effetti giuridici e tutto quanto. Ok. Mi scrive gli avvocati della Sacra Rota chiedendomi la cartella clinica di una signora, perché su richiesta del signor Francesco mi chiedono la cartella clinica della signora Antonella, va bene? E io rispondo che su richiesta del signor Francesco. Ah, perché il signor Francesco, dopo il matrimonio, aveva scoperto che la signora faceva uso di sostanze stupefacenti, non era stato messo al corrente, e questa è una condizione che può dichiarare nullo un matrimonio. Ma io posso rispondere al signor F sulla signora A? Assolutamente no. Per cui io rispondo alla Sacra Rota che io non posso dare queste informazioni, perché sono informazioni strettamente riservate, per cui facesse quello che vuole, signora. Perché se io do informazioni sulla tossicodipendenza, che è un reato in Italia, ma chi viene più a curarsi? Voi vi curereste se io vi devo andare a denunciare alla polizia o dico a vostro marito, a vostra mamma, vi curereste? No, quindi la privacy dei pazienti è soprattutto, è la prima cosa, perché il nostro obiettivo è la cura. L'obiettivo di un servizio per le dipendenze è questo. Mi chiamo. Ciao, ho preso il telefono. Non l'hai dimenticato, voglio vedere chi se lo dimentica. Ciao. L'obiettivo è prevenzione, cura e riabilitazione. Questo. La prevenzione potrebbe essere anche quello che stiamo facendo oggi, nel senso questo discorso informativo e di prevenzione, perché voi vi voglio considerare moltiplicatori. Che significa che voi siete moltiplicatori? Che portate quello che vi dico. Se viene una persona da voi e dice no, ma io ho il cert, per dire, non ci vado, perché poi la polizia sa che io faccio uso di droghe, spaccio, eccetera, voi gli dite no no, c'è l'anonimato, è la 309-90, no no, io ho l'epatite C, che devo fare? Io vi dico oggi, e ve lo dico, questo è importante, che c'è, i nuovi farmaci eliminano completamente l'epatite C e sono gratuiti, le persone guariscono con una terapia che dura da un paio di mesi più o meno, non ha effetti collaterali, costa un botto, ma è garantita in Italia, eh? Quindi è importante questo, epatite C. Gli stranieri, io c'ero la difesa militare molto alto, quindi penso che non mi serve. Vabbè, non facciamo troppo gli onnipotenti, confrontiamoci con reale, piedi per terra. No, comunque ragazzi, a parte questo, per gli stranieri una cosa importante: gli stranieri temporaneamente presenti in Italia, quelli STP, quelli che non hanno il permesso, eccetera eccetera, vengono previsti solo le prestazioni, voi lo sapete, necessarie, urgenti, ok? Tranne per la tossicodipendenza. Per la, gli stranieri in Italia possono avere solo la cura per una patologia urgente, quelli senza permesso, per qua, quindi se stanno male vanno in ospedale, hanno diritto alla cura. Per quanto riguarda il paziente con una dipendenza, ha diritto a tutto. Anche col codice STP può andare in comunità. È l'unico caso, solo il paziente tossico con una dipendenza può avere la riabilitazione, eh? Gli altri no. Ma li rilasciate un certificato medico o no? Perché sì, ha un certificato medico, può avere pure il permesso di soggiorno. Sì. Certo. Anche asilo per motivi di cura abbiamo prodotto nei nostri. Certo, sì, sì. No, no, aspetta, non mi portare nessuno domani, io sto a Piazza della Concordia. Però... No, ma è un senegalese che... Aspetta, aspetta, aspetta, ora ti dico anche un'altra cosa. Siccome noi... Siccome noi siamo gli unici che hanno questo e hanno tra virgolette le strutture, le comunità dove io in maniera molto libera firmo e invio, gli stranieri senza fissa dimora che dormono per strada e non sanno dove collocarli, questi della Caritas o qualcuno di voi me li porta come un pacchetto e dice: no, ma lui beve un po', ma lui si è fatto la canna. E allora io l'accertamento di tossicodipendenza e la diagnosi non gliela faccio, e mi dispiace quando mi dicono: ma tu sei cattiva, se muore è colpa tua. Nel senso che se uno ha la diagnosi di tossicodipendenza, come una signora, pochi giorni fa abbiamo fatto un certificato per darle asilo, per metterle la cura, anche perché ha avuto un figlio che sta qua e quindi cercare di aiutarla, di congiungere, bla bla bla, bene. Ma se uno non è tossicodipendente, ma come deve dimostrare? Siamo noi che facciamo l'accertamento, no, con l'esame tossicologico, lo screening. Non è che ha bevuto oggi, quindi... non è che ha bevuto oggi. Analisi, bravo, si vede tutto. Deve essere una diagnosi di tossicodipendenza o da dipendenza, perché se no mi arrestano. Perché essere dipendenti dà dei benefici anche giuridici, anche di alloggio, di comunità, di strutture. Mi arrestano. E non è giusto neanche per chi ha una dipendenza. Chi ha una dipendenza deve essere preso in carico e curato. Chi non ha una casa e dorme per strada e fa freddo e chiudono gli alloggi, mi dispiace, ma non... mi dispiace umanamente, ma non gli posso fare una diagnosi falsa. Certo. È legale. Ma alcuni di loro sono dipendenti, però. Certo. No, ma non dentro. Alcuni. Metti il lavoro in disco, sempre così. Metti il lavoro in disco. Non è giusto, non è corretto, non è giusto. Svalutiamo un servizio, perdiamo le risorse. Capite? Noi abbiamo grossi problemi con gli operatori della Caritas, perché... perché bisogna essere buoni, però buoni con le proprie risorse. Nel senso che l'operatore della Caritas che decide di sistemare il poverino che dorme per strada e lo vuole sistemare appoggiandosi al nostro servizio non è corretto. Se poi quello è un alcolista, io me lo prendo in carico, lo sistemo, gli facciamo fare, che ne so, tutti gli screening per le patologie, gli diamo la terapia e lo mandiamo in comunità. Ma se quello non c'ha l'alloggio, ma non mi venite a incrociare, anche perché noi sul nostro territorio abbiamo 120 posti, sono pochissimi 120 posti. Le esigenze quindi, sono più dove 120 posti? Le comunità che stanno sul territorio, le nostre due comunità, tra le due comunità abbiamo 120 posti, sono pochi. Voi pensate di Salerno solo. Sì, noi poi pensate che noi abbiamo 120 persone, 130 almeno al giorno. Noi soli, poi c'è Cavano, c'era Sapri, Battipaglia, cioè come dire, 120 per tutti, non per la città di Salerno, Quindi. Qual è la percentuale su questa regione dei tossici dichiarati, diciamo, che conoscete? Senti, noi abbiamo in carico al momento 2700 pazienti come dipartimento. Il dipartimento va da Sapri a Nocera e le unità operative sono 8. 2000 persone. Ma sono visti oppure sono divise? Come... sono divisi per territorio, residenza. Ma chi non ha la residenza? Senza fissa dimora, STP. Nella comunità riferisco, viene... maschi e femmine o poi sono divisi? No, no, sono divisi. Stai scherzando, i maschi e femmine dove si mettono insieme? No, ci sono delle comunità miste, però non sono molto funzionali. Non sono molto funzionali, credo che devono, magari dei momenti di contatto, però insomma. C'ha delle difficoltà, Ma dottore, se sai se fisso d'amore possono andare in comunità, diciamo, perché quelle che voglio portare sono senza fissa dimora, ma sono sicuro che sono poco. Quelli senza fissa dimora, portali a Battipaglia, dici che abitano lì. Perché. Ma questi sono indipendenti, dottoressa, sono proprio di Salerno. Sì, ma portali lì senza fissa dimora, sono di meno, hanno più soldi, più risorse. Io ce ne ho troppi. Ma quelle di riferisce quella comunità Manuel? Loro. Anche le Manuel, sì. Vicino alla posta. No, dove si trova cosa? Il CERT? Vicino all'ospedale, appena entri, dove sta la sbarra. Ah, ok. No, non c'è uno pure al centro, un piccolino. Quindi ogni lato c'è questa struttura a sé. Ogni lato. Ah, Potresta, ma ce l'ha, se ne stai. Va bene, allora che ora è? Vediamo un po'. Non sono sposato. Ecco, vi voglio dire che nel paziente dipendente si verifica questo. Qualcuno di voi conosce Alice nel Paese della Meraviglia, la favola, no? La storia, più che una favola. Tra l'altro si diceva che l'autore facesse uso di sostanze stupefacenti, quindi Alice grossa, il buco, il cappellaio matto, erano distorsioni percettive, un'alterazione della percezione. Per cui lui, quando scriveva, immaginava questi personaggi sotto effetto di sostanze. «E tu chi sei?» domandò il bruco. Intimidita, Alice rispose: «Io a questo punto non lo so più, signore. O meglio, so chi ero stamattina quando mi sono alzata, ma da allora credo di essere cambiata più di una volta. I nostri pazienti così sono, cambiano nell'arco di un giorno, cambiano i bisogni, cambiano i desideri. Ma cambiano perché la sostanza li cambia, eh?» Sì, dice anche. Dimmi. Diventano anche, per arrivare a quello, dicono un sacco di bugie. Eh beh. Per forza dicono un sacco di bugie. Forse hanno una visione alterata. La visione alterata, ma poi è il raggiungimento dell'obiettivo, no? Che è fare uso di sostanze. Allora, le sostanze sono tantissime, neanche noi che facciamo questo lavoro, neanche noi. Quale pigio per allargare? Quello al centro. Questo? Sì, sì. Neanche noi che facciamo questo lavoro conosciamo tutte le sostanze, come dire, alcuni nomi, ci sono tutte quelle che si comprano ora su internet, però la cosa importante è la classificazione delle sostanze. Le sostanze hanno delle classificazioni in base al loro effetto sul sistema nervoso centrale. L'effetto può essere un effetto deprimente, eccitante o alterante. Quali sono le droghe che hanno un effetto deprimente secondo voi? Voi dovete pensare: deprimente sul sistema nervoso centrale, e questo effetto deprimente poi interviene anche sul comportamento. Cocaina. Si deprima, quindi. La cocaina non sappiamo che è eccitante. No, non lo so niente. Non è falso. Sto solo indovinando. Ciao. Stavo solo indovinando. No, anche allora, l'alcol. Ci sono dei fasi. Allora, l'eroina. Io piace. Avete mai sentito parlare di eroina? Sì. Io piace. Sono deprimenti. Scusate, qualcuno di voi ha mai visto una persona che ha fatto uso di eroina? Sì. Sta così, c'ha gli occhi. Quelli che non fanno due passi avanti e tre dietro, anche che fa, no, no, È rallentato, cioè, quella persona è rallentato, no, è un effetto deprimente. Lei sta parlando di quella droga che è molto, ha ucciso tante persone anche in America. Stai parlando di quella? No, stai io parlando di quale stai parlando? Non lo so come si chiama, però no. La persona cammina e torna indietro, cammina di allora, cammina, si sballa proprio. È comunque un scusate. Quello che ho detto prima, che le droghe sono tantissime, neanche noi le conosciamo, e per alcune droghe non ci sono neanche reattivi di laboratorio per poterle ricercare, però non esistono droghe, ogni droga rientra in una di queste tre categorie necessariamente, quindi magari questa droga di cui tu parli noi non sappiamo che droga è, per esempio, però io ti posso dire che un comportamento di questo tipo è anche così, sì, così è un comportamento deprimente, quindi comunque questa droga rientra nella famiglia degli oppiacei, oppiacei, oppio, l'oppio antico di cui si sta, bene, si rilassavano. Ovviamente poi nelle droghe ci sono tutte le sostanze da taglio, no? Infezione, cioè. Le droghe eccitanti, la cocaina. Uno sta agitato, sta gasato, sta... La difficoltà della persona che fa cocaina è la fuga del pensiero. Non riesce a stare dietro al pensiero perché questo affastellamento, questa velocità invade un po' tutto. E poi ci sono le droghe alteranti, che sarebbero gli acidi, le anfetamine, quelle che danno per certi versi anche il crack. E pensate che nelle droghe alteranti c'è lo spinello, le canne, che sembra che niente fanno. Ma l'alcol è inizialmente un eccitante. E poi un deprimente. Voi pensate agli incidenti del sabato sera, spesso è l'alcol, perché prima ti senti forte, gasato, e poi c'è l'effetto down. Gli alteranti invece sono gli spinelli, il THC, il tetracannabinoide, per cui alterano la percezione che abbiamo. Alterano, che cosa significa? Che fanno riferimento alla vulnerabilità individuale, per cui hanno un effetto slatentizzante, significa che tirano fuori quella che è la nostra condizione psichica di base, chiaro? Alcune persone... di quella che si chiama zombie. La zombie, sì. E lo zombie, la droga che si chiama zombie è comunque un oppiaceo, ok? È molto pericolo, non lo so. Sì, certo, è molto pericoloso. Ma come fanno? Con la siringa si drogano o usano, bevono, come sono? Ci sono tanti modi di inalare. Io dove abito? Dove abiti? Zona di Carmine, alle spalle c'è un posto dove si radunano. Sì. E anche ho visto una volta che si trovò qualcosa di liquido giallo, era, ma le ragazze anche. Che zona è? Via Renato De Martino, l'ospedale, alle spalle c'è una. Sì, senza con le scalette? Sì, okay. Lì. Sì, la droga può essere inalata, fumata, sniffata o bucata. La via di somministrazione indica la velocità con cui la sostanza arriva al cervello. Fumata, inalata, anche abbastanza veloce, arriva subito ai polmoni, ma la più veloce è per via endovena, che va subito in circolo. Le persone non cominciano mai per via endovena, ma ci arrivano per via endovena, perché quando la droga ha le caratteristiche di dare assuefazione, per cui poi non sento più gli effetti piacevoli, ho bisogno di aumentare le dosi. aumentare le dosi aumentano i costi, e quindi praticamente io nel momento in cui me la buco ho un effetto di nuovo maggiore, perché la via è più veloce. Quindi stavo dicendo, però la cosa importante che vi volevo dire è questo effetto slatentizzante dei cannabinoidi, per cui i cannabinoidi, sarebbe lo spinello, la canna, ha un effetto molto, che in alcune persone può slatentizzare, far uscire un disturbo psichico di base. Cioè, se io ho la tendenza alla depressione e magari questa tendenza riesco a compensarla e a gestirla, se faccio uso di cannabinoidi è capace che questa condizione viene fuori, ok? La cosa pericolosa è che i cannabinoidi possono sviluppare disturbi psichiatrici molto gravi, come deliri e allucinazioni. Ovviamente, come vi sto dicendo, slatentizzano una condizione psichica di base, magari quella persona l'avrebbe sviluppata già, però questo non lo sappiamo, se riusciva a mantenere un compenso oppure no. Quindi vi renderete conto come è pericoloso. Tra l'altro, poi lo vediamo, mentre in passato l'uso dei cannabinoidi era più o meno occasionale, oggi coloro che usano cannabinoidi, un po' per i costi, un po' per lo spaccio molto forte e diffuso, lo usano dalla mattina. Ragazzi, già vanno a scuola che si fanno la canna, non fumano le sigarette, fumano le canne. Quindi l'uso massivo e continuato di cannabinoidi va a produrre degli effetti fisici e psichici simili a quelli di una delle cosiddette, non esiste la differenza, sostanze più pesanti, per cui difficoltà di memoria, di concentrazione, rallentamento dei movimenti fini, il movimento fine infilare l'ago, per dire, no? È il movimento di precisione. E poi, nel momento in cui noi facciamo un esame tossicologico delle urine, di ricerca delle sostanze, io vi dico che le prime sostanze, l'eroina, io piace, la cocaina, durano 72 ore più o meno nelle urine. Noi abbiamo un laboratorio di tossicologia che è un laboratorio definito di secondo livello, nel senso che dà un risultato qualitativo e quantitativo, per cui non dice solo assente o presente, ma ci dice anche il numeretto, cioè la quantità. Dalla quantità più o meno risaliamo e magari abbiamo una presenza maggiore perché la quantità residua riesce a coglierla. Per quanto riguarda i cannabinoidi, hanno una finestra lunga. Che significa una finestra lunga? Che possiamo trovarli nelle urine anche 15-20 giorni. Perché c'è una maggiore difficoltà dell'organismo a metabolizzare il THC, tetraidrocannabinoide. Quindi alla fine hanno una finestra più ampia, tant'è che negli incidenti stradali, nelle risse, negli atti violenti, è quasi sempre, non sempre ovviamente, presente il THC, perché il THC, vi ripeto, rimane a lungo nelle urine. Ma c'è la quantità, magari se c'è quantità è bassa, dopo 10 giorni in quantità è bassa. Un po' difficile risalire se la quantità è bassa perché ne hai fumato poco o perché da tanto tempo, hai capito? Però una finestra, questo lo capisci, sai come? Se tu fai un esame periodico, cioè vieni tu da me oggi, fai il primo esame, esce superiore a 100, poi lo fai fra 5 giorni, esce 48, poi esce 38, allora possiamo ipotizzare che quella quantità è in discesa e lo sta eliminando. Ma se oggi, io non so se quello è un residuo di una settimana o è un tiro di ieri, no? Mm-hmm. Okay. Allora, vediamo un poco. Allora, è chiaro che quello che ho detto io prima, quando vi dico i fattori di cura, eccetera, no? il fattore, la cura dipende da quanto sono presenti dei fattori protettivi in grado di annullare o ridurre le conseguenze di un nostro comportamento. Di chi è? La mia. Chi è? La mia mamma. È urgente? No, ha chiuso, quindi non so. Se richiama. Se la vuoi chiamare? No, devo andare via per questo. E dai. No, no, tra mezz'oretta. Se la devi chiamare, chiamala, non ti preoccupare. Ora abbiamo fatto un esercizio, ma prendete i telefonini, dai. No, non lo possiamo prendere. Dobbiamo aspettare fino alla fine. E allora questa. Visto che questa mi ha rotto, prendo questa. Prego, prendete i telefoni. No, io non lo voglio fare. Vediamo chi lo lascia. Pensavo che tenere il telefono. Ecco. Non è il nessuno che deve vincere oggi qua. Chi vince, di serio. Di chi è questo? Manca uno, ce n'è uno solo. Di chi è? Non lo voglio. Di chi è? Il tuo dov'è? Scusa. È proprio dato. No, no, no. Di vedere quello che è successo nel mondo fino ad ora. Qual è stata la notizia più importante che avete trovato? Mio marito che mi chiedeva con chi tornavo, perché o doveva venire lui o tornavo con la mia. È la più importante. Questa è la più importante. Figuriamoci, no? Allora. Vediamo un po', vabbè, questo l'abbiamo già detto. Arrivederci. Prego. Ma in genere a che ora finite? Va bene, pure le persone ci chiedono. Allora, ma ti piace un mezz'oretta di lì, se ti hanno impegno. No, magari fra un po' sospendiamo se volete. Allora, rispetto alla criminalità, parliamo di due rapporti con rispetto ai reati. Il rapporto diretto, quando il reato è connesso sotto effetto di sostanze, e il rapporto indiretto, quando il reato è connesso alla necessità di procurarsi una sostanza. Negli adolescenti l'effetto diretto è ancora più marcato, perché praticamente le droghe possono avere varie disorganizzanti o organizzanti. Allora, quando diciamo tra quello che è lecito e non lecito, ognuno di noi ha le proprie barriere comportamentali, lui non ha fatto le stesse ore che avete fatto voi, no? Allora, ognuno può fare quello che crede, uno se ne può andare prima, può arrivare dopo, è la modalità di stare dentro le cose, no? La differenza tra il lecito e l'illecito. Ognuno di noi ha la propria barriera comportamentale. Nel servizio che io dirigo, nessuno può timbrarsi o farsi timbrare, e loro lo sanno, perché il rigore deve essere forte, perché non c'è la capacità dell'uomo di gestione della libertà, perché diventa una forma di vincita e di sovrappassione. Poi ognuno di noi ha le sue importanze, l'abbiamo visto dai cellulari, no? Possiamo stare senza, ma nel momento in cui ce l'abbiamo diventa tutto importante. E allora la norma e il rigore di un contesto normalizza e struttura dei comportamenti sani e non disfunzionali, perché potremmo dire tutti: possiamo fare 2 ore, o possiamo fare 5 ore, o possiamo fare 4 ore, o non possiamo fare neanche 1 ora. Anch'io, se potessi me ne andrei. Però abbiamo, io ho preso un impegno con voi e cerchiamo di fare delle cose. Poi possiamo metterci d'accordo, ma è un altro livello, vi rendete conto? E come questo poi si sposta e diventa nel nostro modo di essere tossicodipendenti, di essere figli, di essere partner, di essere tutti. Come la nostra moralità interna ci consente di stare dentro le cose, che non è un discorso moralistico, è un discorso di identità e di dimensione. Poi io, nel momento in cui posso fare della mia vita privata e di quello che mi pare quello che voglio, ma nel rispetto dei contesti. Non so se mi sono spiegata, no? Ed era importante questo esempio, ci ha dato la differenza, quello che vi dicevo, tra il lecito e l'illecito. Non stiamo parlando di comportamenti illeciti, ma quanto il nostro comportamento diventa normante. Se io lavoro in un posto dove tutti timbrano e se ne vanno, uno esce, uno non esce, è chiaro anche io che posso essere una rigorosa, magari mi sento fregare ed esco per 5 minuti, se no se tu esci, tu esci, tu esci, e faccio subito. Allora diventano altri meccanismi che entrano in gioco, ma in un servizio in cui nessuno esce e si entra in quell'orario e non si timbra e dobbiamo essere tutti presenti, quei 10 minuti di scarto, non si scappa, è questo. Siamo persone, sbagliamo tutti, possiamo sbagliare, ma ci sono dei contesti che devono essere inquadranti, che non significa essere punitivi, significa essere comprensivi, ma ci sono dei punti inviolabili su cui non si discute. Nelle vostre strutture dovete essere rigorosi, se no perdete il controllo. Perdete il controllo, non aiutate nessuno a stare dentro le cose, Ci sono dei punti fermi e tutti devono sapere che quei punti fermi sono inviolabili. Punto. L'esempio, la diagnosi tossicodipendenza è inviolabile, non me ne importa, può succedere tutto. Sei cattiva? Non vuoi bene alle persone? Ma non devo voler bene alle persone, devo prendermi cura delle persone. Capite quanto è importante questa dimensione? Se no vi trovate nei guai, vi trovate fagocitati da fatti, da gente. Non serve né a loro né a voi. Sbagliate. Dovete avere dei punti fermi da cui non si prescinde qualsiasi cosa succeda, in base al contesto in cui vi trovate, naturalmente, no? In base agli operatori che lavorano con me, devono arrivare più o meno ad orario, devono timbrarsi, non devono uscire, e non me ne frega niente. Se sta morendo mia madre, io timbro e me ne vado perché sta morendo mia madre, ok? Punto. Non dico a lui: sta morendo mia madre, mi timbri, che cavolo c'entra? Mia madre sta morendo, ti timbri e te ne va, perché è giusto che tu te ne vada, ma nel rispetto della norma. È così. Se uno è tossicodipendente, gli faccio il certificato in prefettura di asilo. Se non è tossicodipendente, dorme sulle panchine. Mi dispiace come Antonella, non mi importa come dottoressa Grandinetti. È chiaro, no? Sì, sì, infatti. Questo è fondamentale nelle vostre strutture, se no fate casini nelle strutture. Fate casini e non aiutate la gente, che la gente dice, là succedono lo schifo. Chiamate i carabinieri se necessario, fate quello che dovete fare, ma mantenete dei punti fermi, aiutate le persone. Lo so, non possono fare niente, ma pure quando li chiamiamo noi. Vengono quando c'è proprio... Lo so. Ci hanno rovinato lo tutto, so, ci hanno lo so, tutto. Lo so, cioè, lo so. Non c'è stagno, non c'è niente, però va bene così. Lo so, ma questo succede anche nei femminicidi, no? Quante donne hanno denunciato fino a che non sono state strangolate. Ma questa cosa io lo vedo strana. È molto brutta, sì, sono d'accordo, su questo sono anche d'accordo. Anche esempio la tutela dei minori, per me non deve essere così proprio. Perché? Esagerata, perché ormai tu trovi dei ragazzi che sono In questo senso, 16 anni che hanno esperienze che tu non hai, cioè che drogati, che vendono pure droghe, queste cose li mettono, non prendono neanche un giorno di carcere, direttamente in comunità in cui c'è la libertà, cioè li mischiano anche con altri. Quello è il problema, il civile e il penale nelle comunità dei minori. Amministrativi l'hanno messo col penale, c'è proprio una vita, credimi, che i ragazzi, quelli amministrativi, stanno proprio, poverini, li ammalano mentalmente. Cioè, anche perché li ricattano, vogliono i telefonini, vogliono poter comunicare, non è giusto. Sì, sono sì, d'accordo. Questo non lo so come il legislatore può aver fatto un errore così assurdo. L'integrazione. Ma non è così. Se uno ha l'esigenza di mangiare tranquillo, guardare un film e fare studiare un pochino queste cose, altre esigenze, che cerca dove ruba soldi per fare questa, come puoi fare integrazione con questi due? Sono d'accordo, noi abbiamo fatto anche noi una grossa polemica su questa cosa. Io non vedo questi... Poi, ad esempio, io per me, quelli che fanno esempio, almeno, non parliamo di quelli che prendono droga, parlano di quelli spacciano. Che spacciano, almeno devono essere in carcere. Quello non devono essere... Sono d'accordo, io sono d'accordo. È un reato grave, deve essere considerato un reato... Ma sono liberi, allora fanno quello che vuoi. Poi quando anche come rivolgono all'operatore, cioè una cosa eccellente, che tu devi guardarlo, lui ti insulta, ti sputa e tu devi guardarlo. Io non ce l'ho fatta, io mi sono litigata con uno che addirittura ha tolto, poi io la giacca e tutto, ho detto vieni qua. Brava. E allora possiamo arrivare. Perché non va bene, io non accetto, loro accettano che loro sbattano tutto, esempio, e i ragazzi tutti mangiano, uno che ogni volta non gli piace una cosa, fa così e sbatte tutto sopra il tavolo. Io la mia presenza non l'ho accettata, cioè l'hai sbattuto, vieni a prenderlo. Tutto bene. Cioè, cosa che... Sai che cos'è? Che come tu, l'esempio che stai facendo è giusto, normalizzano alcune modalità, normalizzano il comportamento, cioè... che quello sbatte all'aria tutto, diventa quasi normale, tutti quanti se l'aspettano. L'operatore non dicono nulla. Invece se cominci... Si preoccupano perché il minore si rattocchi e ci porta in carcere. Cioè, e allora lui lo lascio fare... Ma quello anche il maggiore, non ti credere, perché voglio dire, se tocchi uno dei pazienti pure ti porta in carcere. Però normalizzare il comportamento diventa un danno per tutto il gruppo. Ci sono camere. Ci sono operatori che lavorano tutti insieme, brava, ci sono testimoni di certo, quello, c'è tante cose, allora c'è... Che dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare, veramente c'è, è grave, addirittura uno stava con noi, c'è dei ragazzi che mangiano, perché erano due strutture, è sceso lui, l'ha trovato che mangiano prima di lui, lui mangia sempre da solo, non aspetta nessuno... perché loro hanno iniziato prima di lui, perché ha iniziato prima di me, ha tolto i piatti a loro e l'operatore non ha detto nulla. Cioè, ma vedete l'operatore che rimane zitti. Io non so come vivono, come riescono a avere a stare. Cioè, no, anche voi operatori, come cioè freddi, non riesci. Un moto dell'anno. Proprio non lo capisco veramente. Hai perfettamente ragione. Che sento un cellulare. Speriamo bene, perché comunque qua, cioè, io vedo tante leggi che devono essere cambiate, tante. Molto difficile. Soprattutto con i minori, sì, hanno talmente quella, le tutelano finché. che l'hanno rovinata. Ma anche da noi l'ha messa la prova, però non gli succede niente se non vengono a fare i tossicologici. Ma noi abbiamo, cioè ragazzi, che abbiamo portato al CERT, hanno fatto... A Salerno? Sì, hanno fatto le analisi. No, non è Salerno, Nocera, quello di Nocera, perché è scappato. Sì, anzi, allora hanno fatto, cioè, le cose, le trovano ogni volta. Cioè, hanno preso le sostanze, come entrano nella comunità non capiamo niente, ogni volta dicono che tramite questa le trovano, fanno dei comportamenti che non si fanno e rimandano questo all'assistenza sociale, al giudice, e poi l'ha dato l'amministrativo. È una cosa assurda, che uno che proprio, cioè, mi dispiace, trova animale, proprio non deve essere proprio con le persone normale, l'ha dato l'amministrativo. Cioè, io sono rimasta con la bocca aperta, tutto il mondo. Cioè, qua scherzano, giocano, allora facciamole fare quello che vogliono. Eh beh, perché certo, alla fine diventi più impegno. Diventi poco credibile, non sì, hai potere contrattuale, certo. Questo è il vero problema, no? Allora. Dottoressa, se uno non vuole curarsi, c'è un obbligo da parte vostra? No. Ma che di familiari? No, non neanche. Solo la malattia mentale dà l'obbligo di cura col trattamento sanitario obbligatorio, il famoso TSO. Invece per la dipendenza non c'è obbligo di cura e non c'è interdizione, non c'è pensione, come dire, no, non si è tossicodipendente, non è che ha diritto alla pensione perché è tossicodipendente, il paziente psichiatrico sì, per esempio, no? Quindi non esistono, ci deve può essere psichiatrico e tossicodipendente per poter avere una tutela su quella. No, sulla tossicodipendenza no, sai, viene riconosciuta come una malattia, ma c'è ancora molto di volontarietà nell'immaginare, nello spirito legislativo, per cui non c'è l'obbligo di cura. Su questo io sono d'accordo, fino a un certo punto ci dovrebbe essere un maggiore obbligo di cura. Ma che mezzogiorno? Allora, ciao. Sì, fra un po' andiamo via tutti. Allora, i due emisferi, perché vi voglio parlare dei due emisferi? Per vedere come incidono le sostanze. L'emisfero sinistro è coinvolto nella comunicazione verbale, nella scrittura e nel calcolo, nell'elaborazione verbale delle emozioni. Saper dire io che cosa provo, che sento come emozione, nell'elaborazione analitica del mondo, nell'esecuzione delle sequenze complesse, nella percezione dei suoni ad alta frequenza, per esempio competenza che si perde nel riconoscimento dei volti, nell'esecuzione di sequenze motorie apprese volontariamente. L'emisfero destro invece serve per la comunicazione non verbale, i gesti, la mimica, la faccia, la percezione della profondità, la localizzazione delle relazioni spaziali, la conoscenza spaziale del mio corpo, no? Dove finisce, io non urto per dire, e del suo inserimento nell'ambiente, la percezione delle immagini, la percezione della tonalità e modulazione della voce. Io dal tono della voce capisco se l'altro è arrabbiato, se l'altro è felice di vedermi, eccetera. Dalla percezione dei suoni a bassa frequenza, dalla discriminazione della faccia e dall'apprendimento associativo non cosciente. Abbiamo due tipi di materia nel nostro cervello, la sostanza grigia, il luogo in cui le cose succedono, e l'elaborazione dati del computer, del cervello, scusate, no? La nostra materia grigia. E la sostanza bianca che, giusto per intenderci, colorano tutte le informazioni e arrivano a parti differenti del cervello, le funzioni cerebrali. Allora, i neurotrasmettitori, vabbè, poi ne parliamo fra un attimo. La maturazione del cervello, vedete che oggi ci dice che cresce fino a 25 anni e l'uso di droghe e di sostanze rallenta la crescita del cervello. Sì, perché è ridotto. Sì, ma anche vedi mentalmente, perché non ha, certo, il pensiero, non hanno obiettivi, non hanno niente. Non hanno la capacità di problem solving, di pensiero astratto, ma solo di pensiero concreto. Cioè quello che vedo, quello che immagino, quello, no? Senza responsabilità. L'esempio del deterioramento è non sono capaci di funzioni simboliche. La funzione simbolica qual è? Un esempio di funzione. Facciamo 14 più 16. Riusciamo a farci quel conto e a ricordarci. Quella è un po' una funzione simbolica. La persona che ha un deficit cognitivo come chi fa da sostanza non riesce a fare e a ricordare per brevi tempi quello, o la sequenza di numeri non è un fatto di memoria. Se io dico 3, 5, 7, sì, ce lo ricordiamo. Non era questo l'esempio, anche questo è il ricordare proprio. Noi ricordiamo una sequenza per brevi tempi. Per ognuno appunto a suo modo, tu subito hai colto i due numeri, un altro magari se li immagina visivi, chi ha un deterioramento cognitivo legato per esempio all'uso di droghe o una malattia neurologica non ricorda la sequenza. Allora, 12 anni, durante l'adolescenza, la sostanza grigia si assottiglia, vengono sfoltite le connessioni, a 16 anni è molto sensibile alle droghe. A 20 anni si rischia di sviluppare una dipendenza. Rispetto alle droghe, noi abbiamo per fronteggiare il craving, quello che abbiamo detto un po' anche prima della regola dell'ecito e l'ecito, per fronteggiare il craving noi mettiamo in moto tutto un sistema che si chiama controller. Che cerca di ridurre, di controllare tutto quello che ci appartiene di impulsivo. Abbiamo voglia di andarcene, stiamo qui, è il meccanismo controller attivato. Invece io non voglio stare più qui, metto in atto il meccanismo drive di uscita, di impulsività. Queste due funzioni sono in delle aree specifiche del nostro cervello. Le aree limbiche, che sono le aree più antiche, primarie del cervello, hanno a che fare con la funzione drive. Il bambino non ha una grossa funzione controller, si sviluppa dopo. Ho fame. E questa è l'area limbica. Mamma. Nella fase drive. Drive pura, quanti anni hanno? Quasi 3. Anche 10 sono così in più. Anche 10. Poi c'è chi rimane più a lungo nell'area driver, chi sviluppa prima invece l'area controller, che si sviluppa bene intorno ai 30 anni. Però non vi dimenticate sempre quello che abbiamo detto prima: genetica, temperamento. E cultura nel senso di contesto. Allora, la capacità di giudizio, lo sapete, si sviluppa per ultima, no? L'area del cervello che controlla le funzioni esecutive, tra cui la previsione del comportamento e la valutazione delle conseguenze, ragazzi miei. La valutazione delle conseguenze e la previsione del comportamento. Se a noi ci viene un'idea un po' bizzarra, diciamo così bizzarra, che ne so, ma se io decido di picchiare il mio vicino di casa perché con quella tenda che mette mi toglie la visione del mare, dico per dire una cavolata, che faccio? Dico, vabbè, se lo picchio forse la tenda la leva e vedo il mare, ma se mi denuncia, mi becco una denuncia, faccio una figuraccia nel condominio, magari devo pagare pure i danni a quel disgraziato. Per cui mi controllo dall'impulso di menarlo, perché gliel'ho detto con le buone, gliel'ho ridetto, eccetera, e non lo faccio, non mi guardo il mare. Quindi la funzione esecutiva, che è la previsione del comportamento che io metto in atto, no? che non hanno i ragazzini di cui parlavi tu. Già non ce l'hanno i ragazzini, ma non ce l'hanno i ragazzini che hanno fatto uso di droghe e che non hanno avuto un contesto che ha sviluppato, quando è più possibile, la funzione esecutiva e il controller. Perché c'è il ragazzino che a 17 anni si mette a studiare perché pensa che vuole entrare l'anno dopo a una facoltà X e studia dall'anno prima perché fa una previsione analitica e dettagliata di comportamento e si mette a studiare, oppure quello come mia figlia che dice no, ma il compito di matematica è dopo domani, studio domani, prendo 4, prendo 3, perché non c'è una previsione neanche minima, perché le funzioni esecutive sono le ultime, ma poi la funzione di contesto non fa da contenimento in alcuni casi, la funzione controller. E allora perché quando noi andiamo a fare un'anamnesi di un nostro paziente, gli chiediamo, che arriva a 25 anni da noi, che fa uso di sostanze, gli chiediamo, scusa, ma a scuola come andavi? Ma all'asilo ci andavi? E quello dice, ma a te che ti frega come andavo all'asilo? Noi ci interessa sapere quella persona come andava all'asilo, quanto questa funzione culturale e contestuale era potenziata, perché non c'è, abbiamo visto che non c'è, siamo nella fase limbica, dai. Però questa viene dal contesto, e se questo ci dice no, io, no vabbè, ma io mi divertivo a scuola, a 7 anni la direttrice della scuola elementare andò a chiamare mia madre perché avevo incendiato i capelli all'amico davanti, ma era una bravata, quello era un secchione. A 11 anni, no, ma io non avevo problemi. Sì, però sono stato cacciato da classe perché quello, il professore rompeva le palle, l'ho mandato a quel paese. Facciamoci le due domande di chi abbiamo di fronte. Probabilmente se questa persona la inquadriamo allora, questo qui non ci fa la rapina a 15 anni. Se questa non è una bravata e tutti quelli che gli stanno vicino riconoscono una bravata, potenziamo il potenziamo il controller, blocchiamo un po' il drive. E questo a 15 anni non dico che si prepara all'esame di un anno dopo, ma probabilmente si studia il compito di matematica 2 giorni prima, oppure si cerca un lavoro, eh? Allora, noi dobbiamo scappare. Sì, a che ora dobbiamo smettere? Troviamo un accordo. 10 minuti e sospendiamo, Ivan. Allora, droga. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi della vostra attenzione. Ciao. La droga è qualsiasi sostanza che modifica le capacità percettive, emotive, cognitive e motorie. Ogni sostanza chimica, naturale o sintetica che modifica le sensazioni nell'individuo e determina un comportamento dannoso a se stesso e alla società, provocando dipendenza fisica, psichica o psicofisica. Vedete, le droghe sono sempre esistite, addirittura Freud si diceva che dava anche la cocaina ai pazienti per farli aprire e dire più cose del loro passato. Nelle antiche civiltà i sacerdoti preparavano tutti questi miscugli come arti terapeutiche, sembra che già i cinesi fossero esperti in tale scienza e gli egizi hanno usato l'oppio come estratto dal papavero. Sumeri, arabi, aztechi, maya, incas usavano droghe durante i riti religiosi per sedare la fame e il freddo. Pensate che le sostanze eccitanti come la cocaina, per esempio, riducono il senso di fame, inducono un'anoressia farmacologica, tra virgolette. Ippocrate, Galeno conoscevano l'uso delle piante, eccetera. La tintura d'oppio veniva usato come calmante per la tosse e per i nervi, è un sedativo, è un deprimente, ve l'ho già detto, no? E ancora oggi vengono masticate dai contadini in Perù foglie di coca per ridurre il senso di fame. È un deprimente, pensate che l'effetto deprimente non è solo su quel comportamento, come vi ho fatto vedere, rallentato, ma anche sugli organi vitali, si rallenta il battito cardiaco, pensate che la morte, l'overdose, ne avete sentito parlare dell'overdose, il sovradosaggio, avviene per depressione dei centri respiratori, cioè si rallenta e si deprime tanto la funzione respiratoria che arriva alla morte. Allo stesso tempo la cocaina è un eccitante per cui il cuore va troppo veloce, ci può essere l'infarto del miocardio per l'uso massivo di cocaina. Allora, l'intossicazione, l'effetto di uso di droga da intossicazione, che è una sindrome reversibile dovuta all'assunzione di una o più sostanze in dose eccessive. E produce alterazione dell'attenzione, del giudizio, calo del rendimento scolastico, eccetera. Il concetto di dipendenza, quello che dicevi tu, è la diagnosi di dipendenza, è qualcosa di complesso che ha a che fare col comportamento, con l'aspetto psicologico, con quello che è la risposta fisica, con quello che è la sostanza. È un valore complesso. E non ha una causa, ma una serie di cause, di bisogni. Diciamo solo scemenze se cerchiamo una causa, può avere una vulnerabilità individuale, non lo sappiamo. Certo che ci possiamo immaginare da un paziente che arriva da noi con una dipendenza, sapendo l'età del paziente, il sesso del paziente, l'esordio della dipendenza, com'era quel bambino. Allora, abuso non ve lo voglio proprio dire, perché oggi il DSM-5, sapete che cos'è il DSM-5? È il manuale statistico dei disturbi mentali e psichici. Statistico perché fa una previsione statistica. Comunque non fa più una differenza tra uso e abuso, ma di dipendenza, punto. Vabbè, l'abbiamo già detto. Ah, ecco, che cosa caratterizza la dipendenza? L'astinenza, una specifica sintomatologia che è legata alla cessazione dell'assunzione di una sostanza, no? Che crea disagio sia fisico che psichico. Queste sostanze danno fisico e psichico, la cocaina, il crack, solo psichico. Come ansia, come craving, come smania proprio, eccitazione, disagio, irritabilità, attenzione. Tutti i sintomi, però, anche quelli fisici, oltre che quelli psichici, non sono dovuti. Scusa, una domanda. E ansia non è fisico? È psichico. Non solo, proprio. Io pensavo che è un fisico. E perché è fisico? Sente un po' dolore al... Ma la tua mente che lo vede tutto. Ma non c'è una cosa. Senti anche, la tachicardia, dici? Sì, battito anche. Sì. Però è legato a una condizione psichica che va ad alterare. Per esempio, la tachicardia può essere perché c'è un'aritmia, no? È quello è una disfunzione elettrica del cuore. Invece la tachicardia rispetto a un'emozione. È chiaro che ora c'è stato anche questa cosa, non so se l'avete letta, la sindrome del cuore spezzato, no? Che un grande dolore può dare anche una rottura del cuore, l'infarto è una rottura del cuore. Però manteniamoci i piedi per terra, uno c'ha l'infarto perché... Ma certo che il dolore è... Anche viene l'ulcera. L'acidità nello stomaco, questo... Ma quello ci rimane l'acidità, sì, invece... Con il tempo... Inizia ancora nella collina, anche se, come dire, anus anche sì. Allora, il discorso è questo, che si struttura, che un disturbo psichico può strutturare una patologia fisica, addirittura tutta la psiconeuroendocrinologia parla addirittura del tumore come risposta del sistema immunitario, no? Ho capito. Però nasce da una sintomatologia di ansia, perché anche se io mi prendo la pillola e riduco la tachicardia, l'ansia la sento lo stesso. E vedi, è questo, la conclusione è che i sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale, no? Ma a una condizione psichica. Quindi la sostanza è assunta in quantità sempre maggiori per periodi più lunghi, il desiderio è persistente, non si riesce a controllare l'uso della sostanza, il tempo viene impiegato per procurarsi la sostanza e viene ridotta tutta l'attività lavorativa e sociale, no? E il continuo uso nonostante questo crei problemi. La dipendenza fisica, la dipendenza psichica e la dipendenza sociale, nel senso che viene ridotta la vita sociale nelle persone con dipendenza. I meccanismi cerebrali che le droghe o anche un comportamento disfunzionale utilizza per produrre questi effetti si trova nelle aree limbiche del sistema nervoso centrale, nel circuito della gratificazione. Le gratificazioni naturali, normali, sono il cibo, l'acqua, l'attività sessuale, la madre per il neonato per la madre, La dipendenza è la madre fisiologica per il neonato, ma la gratificazione è il neonato per la madre, che danno queste gratificazioni nei centri neurologici della gratificazione, L'attivazione del sistema di ricompensa cerebrale è considerato un comportamento, è normale, noi vogliamo essere gratificati, non ci sta niente da fare, ci vogliamo sentire che ho fatto bene, o che sono stato bravo, o che sono simpatico, che faccio ridere, o che sono bello, non ce ne frega niente, su cosa, vogliamo essere gratificati. Per cui la gratificazione ci induce verso mete utili per la sopravvivenza e per riprodurci, no? E tutto quello che noi cerchiamo deve produrre questa sorta di attivazione cerebrale e di emozione positiva. Il sistema di gratificazione che esiste nel nostro cervello è legato, che è questo, Reward, vedete? Vedete? Non c'ho la cosa, la luce puntata, mannaggia, eccolo qua, questo qua. È legato alla visione, alla coordinazione, alle sensazioni, al movimento, eccetera. Ed è responsabile della ricerca di gratificazioni naturali, indispensabili per la sopravvivenza. Ricerca di cibo, acqua, sesso, calore materno. È la dopamina il trasmettitore, il neurotrasmettitore. A volte si dice quando mangio cioccolata si aumenta la dopamina perché ci si sente gratificati. Perché questo trasmettitore, una volta che ha attivato questo sistema, questo neurotrasmettitore viene ad essere, insomma, attivato. I farmaci dopaminergici sono quelli che dovrebbero migliorare il tono dell'umore nei nostri pazienti. È chiaro che anche qui c'è una saturazione. Io faccio un esempio un po' scemo, sapete che cos'è la parmigiana, no? Sì, sì. Io adoro la parmigiana, se qualcuno, se qualcuno mi porta una, come si dice, una vaschetta di parmigiana, io sono capace di mangiarmela tutta. Se qui sopra mi mettete tutto di parmigiana, per quanto mi piace, dopo un po' mi viene lo schifo, perché le nostri recettori vanno in saturazione. Quindi tu me ne porti una, io me la mangio tutta, anche se poi mi sento un po' pesante, non ce la faccio, me la mangio. Io se non la mangio da tanti giorni, se qua c'ho pieno, dopo un po' non la voglio vedere. Così funzionano le nostre aree della gratificazione, eh? Non ve lo scordate mai. Cosa? Dovrebbe sempre mancare qualcosa, non devi arrivare a questo eccesso. No, mancare no, dai, devi arrivare al giusto livello di saturazione, non parliamo come mancanza. Allora, l'effetto immediato dell'uso di droghe, vabbè, l'avete capito, l'incremento di dopamina. Però l'uso continuativo, vi ricordate l'anedonia di cui abbiamo parlato, l'assenza di piacere, l'uso continuato riduce la produzione di dopamina centrale, perché io gliela do da fuori, eh? Sì, e quindi il corpo non produce più. Riduce il cervello. E il cervello quindi riconosce la droga come sopravvivenza per il suo organismo. Il sistema di gratificazione risponde con un comportamento di ricerca della droga. Come io, il mio sistema di gratificazione quando ho fame cerca il cibo, perché quello va a coprire la gratificazione. Lì si riduce la dopamina centrale, viene attivato dall'uso di droga, il mio cervello cerca la droga. Topi in laboratorio, eccetera, eccetera. Inizia il craving e la dipendenza. È chiaro il meccanismo della gratificazione. Allora, vediamo un poco quello che ci siamo detti poc'anzi in maniera strutturata, le classificazioni delle droghe per modalità d'azione. Gli stimolanti, cocaina, anfetamina, ecstasy, catinoni, sarebbero i sintetici e la nicotina, ok? Sedativi, gli oppiacei, gli analgesici, le benzodiazepine, l'alcol, perché l'alcol comunque i barbiturici, la cannabis, alcuni tipi di cannabinoidi, psicadeliche, alteranti, l'LSD, mescalina, chetamina e i cannabinoidi in base alla quantità di THC. THC sono l'hashish, la marijuana, gania, sinsemilla, olio di cannabis. Ecco qua la marijuana, vedete. Gli effetti della marijuana, della cannabis, dipendono dalla dose, dalla via d'assunzione e dalla modalità di consumo. Gli effetti cognitivi, deterioramento della memoria, tutte le funzioni cognitive, non solo la memoria. E il rendimento psicomotorio, quello che vi dicevo dei movimenti fini. Effetti psicologici e psichiatrici, maggiore sviluppo di quando l'esordio è precoce dei cannabinoidi, il paziente può sviluppare una schizofrenia, un disturbo psichiatrico molto grave, ovviamente con la vulnerabilità individuale, ma ansia, psicosi acute, allucinazioni ed idee deliranti. Gli effetti soggettivi possono essere benessere, euforia, rilassatezza, sensazione di lentezza, sedazione, letargia. Lungo termine, sindrome motivazionale, distratti, svogliati, incapacità di fare progetti, alterazione della memoria, questo ve lo sto dicendo proprio, tutte le funzioni cognitive, non ve lo dimenticate, anche l'uso di anche la dipendenza comportamentale, deterioramento delle funzioni cognitive. Reversibile, se uno sospende, riprende, si riallena e riparte. Ma nel momento c'è un deterioramento. Chiunque vi dice, ma io studio meglio, io funziono meglio, vi sta dicendo una cavolata e si sta illudendo. Allora, i cannabinoidi, noi abbiamo anche una produzione normale di cannabinoidi, no? Ma i cannabinoidi, la produzione del cervello praticamente, il sistema di endocannabinoidi endogeno nostro, influenza tante cose, e l'esposizione invece derivati dalla cannabis in tale fase produce alterazioni neurobiologiche, perché non c'è più la produzione endogena che funziona. Il nostro corpo produce endocannabinoidi, abbiamo il sistema neurologico degli endocannabinoidi, dello sviluppo cerebrale. I recettori cannabinoidi che fanno? Da un punto di vista affettivo danno euforia, logorrea, logorrea parlare tanto, gregarismo, ilarità, apatia, sonnolenza. Somatico, aumento appetito, quella cosiddetta fame chimica, alterazione del coordinamento motorio, movimenti fini che vi dico, tachicardia, congiuntivite. Ragazzini, quando cominciano ad avere sempre il collirio in tasca, cognitivo, disturbo della concentrazione, memoria, attenzione, diminuzione del QI, del quoziente intellettivo. Sensoriale, per il tempo lento, la sopravvalutazione dei sensi. Cocaina, tutta l'accelerazione, inalata, sniffato, fumata, iniettata. Il cocainomane che si inietta ha le vene bruciate, perché la cocaina brucia le vene. Dipendenza, vabbè, distruzione dei tessuti nasali, convulsione, insufficienza mortale e morte, crack, la forma più potente, viene solitamente fumata e inalata, crea velocemente dipendenza, quella compulsione, anche se satura come la parmigiana. Non andate in dire che ho detto che il crack è come la parmigiana, che mi arrestano, Alcuni effetti delle anfetamine: aumento della frequenza e della pressione, perdita appetito, accelerazione, eccetera eccetera, aumento dell'autostima, si ci sente belli, fighi, eccetera. Ecstasy, lo stesso, dipendenza, lesioni cerebrali, deficit cognitivi, collasso o morte. Eroina, forte sensazione di piacere, abbassamento della soglia del dolore, Questo è importante. Pensate alle ragazze che hanno, che fanno uso di eroina, quando sospendono l'uso di eroina non sopportano il ciclo mestruale, perché c'è un abbassamento della soglia del dolore. L'eroinomane non sente nessun dolore, perché l'eroina è un forte anestetico psichico e fisico. La morfina. Anche la morfina è un oppiaceo, sì. È la stessa famiglia, per cui quando sospendono anche quei dolori, se voi ora vi fermate un attimo e pensate al vostro corpo, probabilmente io sento un leggero dolore alla schiena, magari ognuno di noi, oppure una tensione al collo, che non è un vero e proprio dolore, che magari uno normalmente poi non sente e fa. Una persona che fa uso di oppiacei, di eroina, non avverte nessun dolore tranne quando sta in astinenza. Quando sospende l'uso, tutti i dolori a cui noi siamo normalmente abituati, con cui la soglia si abbassa talmente tanto che gli sembra ogni cosa ingigantita, e tutto poi rapportato all'astinenza. Invece il dolore che io ho qua, ricordo un signore che faceva un lavoro molto fisico, manuale, insomma, faceva un caldo di pazzi, questo lavorava sulle impalcature. Io racconto sempre questa storia perché mi fa ridere col senno, cioè così. Ed era un pomeriggio torrido, caldo, sì. Arriva da me il pomeriggio e mi fa: io oggi sto proprio male, sto peggio. Non facevo uso di eroina da un po' di tempo, insomma, non mi ricordo quando era. Oggi sto proprio male, non ce la faccio qua. C'ho un desiderio forte, ma oggi non ce lo fa, vedete come sto sudato. Io lo guardai, mi alzai, mi tolsi la giacca e mi feci vedere la mia camicia. Cioè, non solo in astinenza, come dire, riportano tutto alla sostanza, è chiaro? Vabbè, i danni, flebiti, eccetera, infezioni e la morte per overdose. L'alcol, l'eccitazione, euforia, perdita delle inibizioni, sottostima dei pericoli, danni, incidenti, patologie epatiche, effetti negativi, confusione mentale, coma, morte. Le nuove sostanze psicoattive neanche noi le conosciamo tutte, però perdita di coscienza, tachicardia, alterazione della percezione, ansia, allucinazioni, eccetera. Droghe sintetiche come incensi, fertilizzanti, molte si comprano da internet, c'è una grossa diffusione. Cannabinoidi sintetici e catinoni sintetici, quelli che esistono sul nostro territorio. Sì, che contengono queste sostanze per inalazione. Le terapie, vabbè, comunità, metadone, buprenorfina per l'eroina, l'alcolismo, terapia di gruppo, antabuse, GHB. GHB è quella che viene definita la droga dello stupro, ne avete mai sentito, visto nei film, eccetera. In Italia è legale, eh? Non è una droga, è un farmaco che viene dato solo da alcuni servizi. Cocaina, stabilizzanti dell'umore, antidepressivi, ma psicoterapia prevalentemente, per la nicotina, i cerotti e tutte queste cose qua. E comunità terapeutica, ovviamente. E vabbè, le misure alternative, ve l'ho detto. Va bene, ragazzi, abbiamo finito, ci possiamo grazie. Fermare. Possiamo avere grazie. Le slide di oggi? Già sono sul computer. Ok, a quando li manda? No, non è quando. Io credo che sono non vi lascio tutti, alcune non ve le posso lasciare. Allora, lasciamoci. Lui l'ha messo qua. Lasciamoci alcol e droghe. Allora, lasciamoci alcol e droghe e definizione di tossicodipendenza. Questo qua è la cartella che ha aperto lui. Allora, l'ho aperta io, mi pare. Personale, alcol e droghe, sì. Questo no. È molto attuale, diciamo. Magari ci sono i familiari. Tantissimi hanno questo problema, le famiglie, quando sento che hanno questo problema. Per il mediatore culturale rimangono solo questa lavoro. Poi che togliere tutto. Per il mediatore culturale rimangono solo questa lavoro. Tutti lo sanno. Perché condizioni di vanità no, soprattutto sono i termini che non lo so in italiano, quindi così non riesco a leggerlo meglio. Arrivederci, ciao, grazie. Grazie, ciao. Grazie, grazie. Vorrei chiedere un'altra domanda che mi è venuta. E questo, diciamo, test per controllare, si può venire positivo anche in urina della sposa? O no? No. Non è possibile, nessun tipo. Quando uno è positivo l'ha usato lui. Sì, se usa, se è anche non si basta con i rapporti sessuali. Se è anche usa tanto. Ah, ti do il foglio, dai. Grazie. Prego, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao.